È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Caro Parenzo, voglio subito rimetterti in sesto, voglio subito risollevarti la giornata che immagino nella calura di Roma, con questo lavoro insopportabile che devi fare, cioè quello in televisione. Con questo lavoro insopportabile sarà stata una giornata molto dura, una giornata faticosa, e voglio subito risollevarti il morale. Giornata tu sai... durissima, ma se, sono qui, tra poco ci sarà anche il direttore Mentana. Ma chi se ne frega? Tra in poco questo... ne avrai tutti ospiti, ma no, in questa, ma lascia... grande serata della zanzara. Lascia perdere i direttori, i tuoi, le tue slinguate, eccetera, eccetera. Non mi interessano in questo momento. Voglio risollevarti la giornata, sai quando Borghezio batte la mano, no? Come batte no? La mano sul palco, batte sul la pulpito, mano sul certo, palco. Amici di Roma. Senti, certo. Senti ieri dal, o l'altro ieri dal palco del congresso leghista che ha incoronato Maroni, fiero fammi di gode. Essere fiero di essere Baluba con le corna. Beh, la battaglia indipendentista continua. Il nuovo segretario, chiunque sia, se lo ficchi bene nelle orecchie. Noi indipendentisti ci siamo sempre, siamo il sangue della Lega, siamo Baluba, come dice qualcuno. Bene, sono orgoglioso di essere un Baluba con l'elmo, con le corna, anche perché non sono sposato e quindi... non ci sono illazioni a riguardo. Beh, il passaggio, come dire, il passaggio di tono dal tan tan tan tan tan è un classico di Borghezio, cioè. Alla, noi ci siamo sempre Baluba, anche perché non ho le corna e dunque non ci possono essere illazioni, cioè il, da notare il passaggio. Comunque quando tutto finirà, perché ma primo... anche il cambiamento di voce, no? Sì, il cambiamento anche di voce, quello dicevo, certo. Meraviglioso. Io meraviglioso. Dico una cosa, quando tutto finirà e prima o poi finirà, e prima o poi finirà purtroppo, beh, ci mancherà, ma no lui, dico, ci mancherà moltissimo tutto questo circo. Sentiamo ancora. Padania bella e libera, guarda avanti. Segretario, ti romperemo sempre i coglioni. Caro nuovo segretario, noi saremo leali, ma ti romperemo sempre i coglioni quando sarà necessario. Spine nel fianco di una Lega che ha bisogno di essere tenuta sempre in prima linea contro i porci di Roma ladrona. Eh beh, qui siamo al top. Ma rimesso già in sesto, guarda, ma rimesso in sesto proprio. Però c'è un altro passaggio, che non è male. Servi di Roma fuori. Saremo sempre. Ripensamenti. Saremo sempre. Bisogna imparare la memoria questa canzone. Sì, la impareremo a memoria. Voglio che gli ascoltatori della zanzara entro fine luglio sappiano a memoria Servi di Roma fuori. Guarda oltre i monti. Non permettere al tiranno di accecarti. Noi democristiani, non democristiani, anzi, ma figli di puttana con gli immigrati. Senti, questo è un altro classico borghezziano, tirato fuori per l'occasione. Riprendiamo alta e forte la lotta contro l'immigrazione. Non siamo e non diventeremo mai democristiani. Siamo quei figli di puttana, salvando la madre, che hanno fatto le ronde inventate da Gigi Fronti. La libertà. Beh, ci sono tante altre cose da dire naturalmente sul congresso della Lega, ma più avanti. Anzi, voglio farvi sentire una frase di Maroni di oggi. Di oggi da Giannino, se non sbaglio. Due voti contro, siamo un partito democratico. Beh, questo è un po' troppo, siccome mi hanno votato in 628 su 630, ci sono stati due voti contro, E lui dice: beh, questa è la dimostrazione che siamo un partito democratico. Nessuno sì, li abbiamo subito identificati, gli abbiamo chiesto i documenti e espulsi. Una è Paola Goisis. Una delle più grandi intellettuali della Lega, certo. Bossiana di ferro, eccetera, eccetera. Compagna di un tizio che sentiremo più avanti, protagonista alla Zanzara di venerdì scorso. E un'altra è una, credo, la portavoce, l'ex portavoce di Rosi Mauro. Sì, ma i due sono stati identificati immediatamente. Beh, certo, ti ho detto i nomi. Maroni. No, ma aspetta, anche no, ma che espulsi? Ma quando mai? Ma... No, segnalati la cultura. No, anzi, Maroni li vuole preservare, no? Come simbolo della democrazia. Sentiamo. Sono stato molto esplicito. E alla fine, su 630 delegati, 628 hanno votato per me e due hanno votato contro. Quindi siamo un partito democratico che ammette anche il voto contrario, naturalmente. C'è una risata, c'è una risata, forse è ironico. Sì. È ironico su questa cosa, forse è ironico. Molto grave che ci siano questi due. Dici? Molto, molto grave, molto grave. L'unanimismo ci voleva. Molto grave, molto. Gli allenatori di calcio devono restare a fare gli allenatori di pallone, non parlare di Italia vecchia, politica e cose di questo tipo. Il paese è vecchio, noi innovatori. A parte che non è vero, perché l'età media della nazionale era una delle più alte, 28 anni. Poi perché fare queste considerazioni? L'Italia è indietro, è un paese vecchio, noi gli innovatori. Non si capisce né il motivo né soprattutto il significato di questa cosa. Innovatori de che? Prandelli. Spesso il calcio può essere un veicolo, uno strumento per cercare di cambiare. Noi, con tutta onestà, siamo in un paese vecchio. Abbiamo idee vecchie, abbiamo modalità vecchie, abbiamo veramente tante cose che dovremmo avere il coraggio di dire ok, cambiamo. Noi abbiamo avuto il coraggio di venire agli europei e dire vogliamo cambiare. Chiaro che poi c'è il risultato. Contro l'Italia hanno tifato, come sapete, Marco Travaglio, Beppe Grillo. Beppe Grillo, elementi, questo l'ho scoperto anche in Notav, pare che abbia risultato. Ma soprattutto gli amici di Radio Padania, ormai sta facendo il giro del web. Sentiamo cosa è successo a Radio Padania nella serata di ieri. Nella serata di ieri, caro Ortelli, per carità, è legittimo, fate quello che volete, non vogliamo assolutamente, eccetera. Però perché questa esultanza così sguaiata? Cos'è la Spagna? Cos'è l'Italia? Dove vivi, caro Ortelli? In Italia o in Spagna, caro Ortelli? Certo. Attenzione ragazzi, arriva il quarto. Ed è 4-0! 4-0! Ragione! 4-0, ragazzi! E come diceva un mio amico, che figura di me! Padania bella e libera, guardavam. Prima ancora, sentite un'altra perla durante la diretta di Radio Padania sulla partita dell'Italia. Allora, no, detto questo, ma qui si dice addirittura che in una ipotetica e futura nazionale padana, Balotelli ha segnato la Spagna, il numero 21 sta in diretta tutto il tempo, il muro di onnipotenza che ci ha reso. E poi tante altre cose, Subito una cosa su Ortelli. Dimmi una cosa. Sull'amico Ortelli di Radio Padania. Sì, sì. Sempre detto con il massimo rispetto, come direbbero a Milano. È un pirla. Detto come direbbero a Milano, è un pirla. Senza dubbi né ripensamenti. Appunto, senza dubbi né ripensamenti, guarda. Ortelli, sei un pirla. Guarda avanti. Servi di Roma fuori. Intanto Raffaella Fico ha annunciato che aspetta un figlio da Balotelli. Questo è importante. È fondamentale, direi. Anche buono. Intanto il presidente del Consiglio Monti dice di non avere mai avuto dubbi sulla bellezza del calcio e che avremmo sottoscritto all'inizio al buio per il secondo posto. Abete, presidente della Federazione Gioco Calcio, dice Travaglio e Narducci, PM di Calciopoli, perché anche lui era timoroso di una vittoria dell'Italia. Tranquilli, niente amnistia. Sentiamo Abete. Volevo tranquillizzare, dato che ci sono sia il dottor Narducci sia Marco Travaglio, eccetera, quando si parla di amnistia, di indulto, ogni tanto la gente si inventa delle situazioni che i risultati positivi della nazionale mettono il bavaglio a Calciopoli. Ripensamenti. 800 24 00 24. Cominciamo così, caro Parenzo. È stato arrestato e poi liberato il giovane neofascista 23 anni che aveva sventolato la bandiera nazista. al Circo Massimo. Ieri sera io ti ho invitato un personaggio molto controverso, caro Parenzo. Chi hai invitato, signor Cruciani? Chi è ospite stasera? Indovina un po'. No, non posso immaginare cosa ha partorito la sua mente. Signor Prandelli, per caso? No, non c'è Prandelli. Non c'è, di signor Borghezio? No, Borghezio, abbiamo sentito in abbondanza. Non riesco a pensare nulla di peggio. Dunque, cosa ha partorito peggio, adesso, la sua mente? Prandelli non è che sia peggio. No, beh, rispetto a quello che ha detto, sicuro. Si deve solo vergognare. Non riesco a immaginare. Vergognare, adesso non esageriamo. Prandelli, sono altri che si devono vergognare. Prandelli no? Che parla di politica, a questo punto va benissimo. Anche Moira Orfei, facciamo fare un editoriale, ma come cittadina. Vabbè, allora. Molte cose. No, non lo so, chi puoi aver invitato? In una giornata come questa c'è stato un episodio vergognoso in uno stadio in cui è sventolata una bandiera con... Non era lo stadio, l'ho detto adesso, che non sentivi prima, cioè era il Circo Massimo. Era collegato male al Circo Massimo per festeggiare l'Italia. Vabbè, certo. Ma quale festeggiare cosa? Non hai capito niente. Ma che hai fatto? Ti sei staccato col telefono? Non ho capito. Non sentivo. Ma l'ho sono detto adesso, l'ho detto ma adesso. Sono qua alla 7. Sono è con noi il leader di Forza Nuova, Movimento di Estrema Destra, Roberto Fiore, buonasera. Buonasera. Come sta? Io non gli dico buonasera, Fiore. Ma perché non dici buonasera? No, perché Fiore è un fascista. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Lo intervistiamo e va benissimo perché siamo persone libere e intelligenti. Ho il diritto di non dirgli buonasera. Ma posso? Non dire buonasera. Scusi, mi Fiore. Ma Parenzo, purtroppo ha questo tipo di pregiudizi. Cioè, nel senso. È un fascista. Ma ho capito, ma signor Fiore. Ma io posso tranquillizzare Parenzo. Abbiamo fatto forse non si ricorda, abbiamo fatto anche delle trasmissioni assieme, poi abbiamo degli amici in comune, quindi non ci deve non abbiamo nessun amico in comune, la querela per diffamazione, non ho come amici no? Tra que- come no? Gli esponenti di Forza Nuova, guardi, stia ben attento, non sono miei amici. Ma non di ha detto questo. Io non dico le cose precise. Lei ha fatto un libro con un economista che è anche un economista vicino a Forza Nuova ed è Eugenio Benettazzo. Penso non è vicino a Forza Nuova, no, mi sembra niente. questo Fiore questo per nulla, non lo so, ha delle teorie economiche. È venuto al nostro congresso, lo potete guardare, il congresso è stato anche registrato a Radio Radicale, quindi ci sono tutti gli elementi per dire quello che sto dicendo. Però scusa Parenzo, al di là di Benettazzo che adesso ma ho il diritto di non salutare Roberto Fiore, sì o no? Sì, tu hai il diritto di non salutare chi ti pare. Per me è un fascista, ma, e gli dico che è un fascista. Ma ho capito, ma che c'entra adesso che è un fascista? Non ho capito. Secondo punto. Benettazzo è un economista che scrive, che ha delle teorie che risalgono anche alla teoria di Ezra Pound, che è stato comunque, nonostante le sue idee, un grande intellettuale. No, è stato, mica è morto. È Ezra Pound, no, dice. Ezra Pound, certo. Grande intellettuale, di cui io non condivido nulla, e ho fatto un libro con un economista, che non è vicino a Forza Nuova, manco vabbè, per nulla. Adesso togliamo togliamo per carità, è venuto al nostro congresso, è partecipato a alcune nostre conferenze e allora mi fa schifo. Ma allora non è vero che non è vicino a Forza Nuova, e comunque sgombriamo il campo da questa vicenda di Benettazzo, di cui non frega niente a nessuno. Esatto. La cosa che voglio dire è un'altra. Non capisco perché tu non vuoi salutare un nostro ospite, questo francamente mi stupisce. Perché no, è fascista? Perché ho capito, voglio dire, il problema è ci sono reati adesso che sono infranti dall'esistenza di Forza Nuova, altrimenti lo scioglierebbero Forza Nuova. Ma guarda, la legge Mancino su questo è molto molto chiara, quella sulla cioè per te non ha legittimità di esistere, signor Fiore. No, io credo che sia meglio che ci siano, perché così li controlliamo, perché così lo Stato democratico sa dove sono le loro sedi, sa dove andare a prendere. Com'è che ti sei non ti aspettavo così scatenato sul signor Fiore? Ma io ho pochi pregiudizi. Sì, Fiore, un attimo solo. Pochi pregiudizi. Però su Fiore hai pregiudizi, vabbè. Non okay. Su Fiore, sul movimento, su Forza quello Nuova, che rappresenta. Sono dei fascisti e ho il diritto di dichiararmi non solo antifascista e di non salutarlo. Dopodiché non salutare. Lo intervistiamo. Benissimo, non salutare. Siamo non giornalisti e intervistiamo tutti. Beh, anche allora Fiore. A questo punto dovresti abbassare il telefono e non parlarci. Scusa, è inutile che fai tanto ho capito, non fare tanto lo schizzinoso allora. Se fai lo schizzinoso mi arrabbio. Non fare lo schizzinoso. Cioè, gli vuoi fare le domande ma non lo vuoi salutare. Ma guarda che sei curioso. Come non gli stringerei la mano? Posso invitarlo e non stringergli la mano? Scusi Fiore, mi dica subito una cosa. Quel ragazzo che ha sventolato la bandiera nazista, ha fatto bene a farlo? No, assolutamente no. Quel ragazzo dovrebbe lasciare quella bandiera che non gli appartiene in tutti i sensi, ma è militare, magari con un movimento politico come il nostro, dove si fa vera opposizione, si fa politica. Ma è giusto averlo condannato? Cose. E lì si alzano solo la bandiera italiana e la bandiera del movimento, non ci sono altre bandiere. Dunque, sbagliato sventolare la bandiera nazista, ma chi sventola la bandiera nazista va accusato? Compie un reato. Compie un reato no, per apologia di... Questo è il discorso, questo immagino che altre persone la pensino in modo differente. Secondo me un ragazzo del genere non deve andare in galera. un ragazzo del genere deve essere introdotto alla vera politica. È ovvio che sono tipiche espressioni di scontento, disagio, frustrazioni che si esprimono in quel modo. Cioè, ma non deve essere in galera, mi sembra un po' un'esagerazione. Ma non deve essere la morte. Quella bandiera rappresenta la morte, il sangue. Aspetta, stai calmo. Sventolare una bandiera nazista, Fiore, è uguale a sventolare un altro tipo di bandiera, che ne so, una bandiera con la falce e martello, secondo lei? Ma guardi, ad esempio, i tifosi del Livorno che sventolano le bandiere di Stalin non vengono accusati o non vengono portati in tribunale. Questo è il primo elemento che mi sovviene. Poi da parte mia, da punto di vista non solo personale, politico, noi abbiamo sempre detto di essere distanti, ma veramente distanti, ideologicamente distanti dal nazionalsocialismo. No, però al di là del fatto che voi siete distanti o no, la cosa che voglio capire da lei, quando lei vede la bandiera con un ragazzo con una bandiera nazista sventolare o uno con la bandiera con la falce e martello, per lei pari sono? Mi dica la verità, però non faccia diplomatico. Guardi, allora, chiaramente non faccia democristiano. Che il ragazzo che sventola la bandiera nazista lo può fare con avendo in mente delle idee anche magari distratte, cose, ma di nazionalismo, di patriottismo fuorviate, no? E quindi quello che io dico, cioè, è un patriota, è un nazionalista, non fare fesserie, mettiti a fare il militante. E chiaramente la prima cosa che dovrei fare, non potrei sventolare quelle bandiere. È un nazionalista fuorviato. Al ragazzo con la falce e martello gli direi un'altra cosa, un po' più complessa, non gli potrei dire questo. Vabbè, lei fa troppo il democristiano. Traffico, torno subito, 800 24 00 24. Mi stupisce che lei faccia il democristiano. Lei dovrebbe dire, per me pari sono. Cioè, per me uno ha diritto di sventolare la bandiera di Stalin con la falce e martello e ha diritto di sventolare anche la bandiera nazista. Siccome però fa il democristiano, non me lo vuole dire. Zanzara Party di questa sera, che si apre con un Parenzo indiavolato, non vuole nemmeno salutare un nostro ospite, però non ci vuole parlare. Salutare. La cosa è curiosa, però. Parenzo, hai detto una stupidaggine. Se tu hai di fronte una persona e decidi di invitarla, e sei stato, come dire, partecipe di questa cosa qui, ho capito, anche di salutarlo per correttezza, oppure te ne vai e chiudi il telefono, altrimenti sei in contraddizione. No, gli dico che lo avessi davanti, non gli stringerei la mano. Ma per perché? Le idee che porta. Perché? Per quale motivo? Dopodiché l'ho intervisto, perché purtroppo è un soggetto politico. Ma e che quindi... vuol dire purtroppo? Comunque, ritorniamo purtroppo al discorso di prima. No, io dico, c'è la legge Mancino. Ho capito, molte delle lascia... cose che loro fanno sono borderline. Dopodiché dico, da cittadino, meglio che Forza Nuova sia visibile con le sue sedi, vabbè, perché meglio che siano non nella clandestinità, così quando vogliamo andiamo a prenderli. Quando ma prenderli a fare che? Prenderli per di sapere cosa? Quello che fanno quando fanno le loro manifestazioni. Vabbè. Però vorrei dire a Fiore una cosa. Dunque, niente galera per questo ragazzo. Odiano gli ebrei. Odiano gli ebrei. Odiano gli immigrati. Fanno dei manifesti di una violenza. Oddio, ma com'è che sei scatenato? Io adesso li stiamo di Parenzo. No, sera. Fiore, scusi, il problema non è Forza Nuova adesso, perché altrimenti dovremmo fare una trasmissione su Forza Nuova e non ce ne frega niente. Il punto fondamentale, adesso non ce ne frega niente, voglio dire, non era una cosa contro... No, è la bandiera, bravo, la bandiera, certo. Il problema è questo qua. Allora, è legittimo o no, secondo lei? Deve essere punito o no uno che sventola la svastica? Punito? No. No, non deve essere punito. No, ma perché se non hai capito, poi dici perché non gli stringi la mano. Lei è un ragazzo che sventola la falce e martello. Che pari sono, dunque. È lo stesso discorso. Sì. Ma mi sembra abbastanza che oltretutto tutta la giurisprudenza italiana vada sempre di più verso questa logica, che chi sventola le bandiere non deve essere punito, poi chi fa altre cose, chi organizza cose, eccetera, è tutto un altro ragionamento, ma fino a qua, in un momento in cui poi, voglio dire, mi sembra che ci siano pulsioni differenti nel paese, ci siano situazioni particolari, eccetera, andare a punire un ragazzo di 20 anni perché ha sventolato una bandiera mi sembra ridicolo, oltre che... Ma è un reato! Il reato, aspetta un attimo, innanzitutto questo ragazzo è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale a due mesi, eccetera, ed è stato denunciato per apologia. È un reato, questo qua, se sventolare una bandiera nazista sarà considerato reato, non è che lo decidi tu, Parenzo, lo decide un giudice, per fortuna. Lo decide una legge, che è la legge Mancino. Mi pare. Benissimo, ma lo decide anche un giudice. Allora, il discorso è questo, a parte che tutto un dato a proposito di Forza Nuova, Forza Nuova esiste dal 97, non ha mai avuto un processo per la legge Mancino. Vabbè, ma questo qua... Federazione e sezioni di tutta per l'Italia che si muovono continuamente, figura quanti processi ci potevano fare se c'era la vis di persecuzione di Parenzo. Scusi un attimo, non ma c'è mai stata questa situazione. Scusi Fiore, lei come lo considera questo ragazzo? Un nazionalista che ha bisogno di essere acculturato? Un camerata che sbaglia, come lo considera? No, io l'ho detto prima, un ragazzo a cui parlare direi lascia perdere queste cose e se vuoi fare qualche cosa per la tua patria, per la tua nazione, inizia a fare politica. Dunque un patriota che sbaglia, un camerata che sbaglia, giusta definizione di Parenzo? Camerata che sbaglia. È giusto o no? Giovane che sbaglia. Ma perché no un camerata, scusi? Però. No, perché voglio dire, se uno parla di camerati, parla di una lotta che stai facendo assieme a una persona, obiettivamente qua non posso dire che lui stia facendo la mia lotta, per questo non posso utilizzare il termine. Ma la usate ancora il termine camerata tra di voi? Come i comunisti francesi, camerate, sì, utilizziamo ancora il termine camerata, non è... Quindi non quando vi ritrovate, camerata a noi... Ma perché adesso? Non è che uno si ritrova, non è che dice camerata, buongiorno, che vuol dire? Cioè, no, faranno così, se no. Ma perché? Perché? Chiedilo. Ma non lo so, io lo chiedo, ma non ha senso, non è che uno chiama camerata... Il braccio alzato lo quando fate ancora, quando fate le riunioni, i eccetera. Raduni. Parli adesso... No, non ci sono... Quello che Parenzo spera che ci siano queste atmosfere rugubri con... camerata a noi tutti con i soliti romani, tutti in piedi, non è così, qui stiamo parlando di gente normale che ha deciso nella sua vita di fare una battaglia anche abbastanza controversa, perché entrare a Forza Nuova non è entrare nelle ACLI, è una su questo è sicuro, guardi, questo non è male però. E neanche alla Caritas, non c'è dubbio su questo. Scusi un attimo, ma la cosa che voglio capire è... Voglio venire una volta lì in una sezione con un immigrato. No, ma non andare, perché devi voglio andare? Voglio andare lì una volta. Ma Grillo è simpatico? Lei è simpatico, Grillo? Grillo dice delle cose giuste, ma purtroppo non ha una formazione, direi, usa un termine grosso, rivoluzionaria, e pertanto lì fallirà, anche se lui ha avuto dei maestri d'economia che coincidono con i nostri, faccio sempre noi, Giacinto Auriti, professor Auriti. Ah, addirittura? Io ho fatto decine di conferenze con Auriti, ma Auriti ha fatto delle conferenze anche con Grillo, quindi... Cioè avete in comune degli economisti addirittura, per l'analisi sulla società, eccetera. A parte che Benettazzo, il suddetto Benettazzo, circola anche nei pure questo è vero, pure questo è vero. Ma detto questo, c'è il vero capostipite del ragionamento del signoraggio e del... Sì. E della moneta di popolo eccetera viene da Auriti, e noi dal 97, questa è una cosa che degli studiosi, dei giornalisti seri come voi sicuramente siete, no, non lo sappiamo, non lo sappiamo dal 97, perché non siamo che seri. Lo Stato deve mettere il denaro e che non va pagato il debito. E vabbè, dunque avete in comune questa cosa qua, ma anche sull'immigrazione mi sembra, no? Alcuni punti siete ancora... dunque lui mi sembra che abbia parlato di ius sanguinis, noi siamo per lo ius sanguinis, certo. Però ecco, detto questo, mancano tutta una visione del mondo, mancano tutta una serie di cose. Però forse per fortuna. I brividi. Ma che hai, i brividi di che cosa? Ius sanguinis. Ma che te ne importa? Lascia perdere che te ne importa se alcuni hanno alcuni punti in comune Grillo e Forza Nuova? Anzi, è anche una notizia, se vogliamo. Ma è una notizia, quella la trovo una cosa agghiacciante, ma indubbiamente una notizia, certo. Ma agghiacciante cosa? Perché ha vissuto a Londra così a lungo? Ma no, basta con queste storie vecchie. No, ma perché tu, scusi, Fiore, Parenzo vuole introdurre delle cose vecchie che a me in questo momento non va benissimo. Ma no, ma non va bene, perché non dovremmo ricostruire. Io ho 20 anni di Londra, io ho fatto politica anche scusi, a Londra. Scusi un attimo, lei come li chiama? Ho capito, devo chiudere però, dopo magari riprendiamo tra un quarto d'ora. Lei come li chiama gli omosessuali? Ecco, mi dica la sua definizione. Come li chiamo omosessuali? No, un po' li chiama froci ogni tanto, culattoni eccetera. Ah, vabbè, ma no, culattoni non al nord. A nord, froci li chiamo ogni tanto. Non li chiamo gay, li chiamo omosessuali. Froci anche, ogni tanto le scappa. E ho una posizione ben chiara, il mio movimento ha avuto sempre una posizione ben chiara. No, è matrimonio gay. Di un fenomeno che è quello che è, insomma, che noi riteniamo un fenomeno positivo per la crescita della nostra società. Cioè, però esistono certo, i signori omosessuali. Che facciamo? Anche Nerone lo era. Che dobbiamo fare? Come cioè, anche Nerone? Anche Nerone era un noto omosessuale. Vabbè, infatti ha bruciato Roma. Esatto. Quello. Scusi, ma che ci facciamo allora con questi omosessuali? Mica li possiamo condannare con le leggi? Non possiamo nelle scuole andare a dire ai bambini che ci sono due modelli di famiglia, uno padre e madre e l'altro padre e padre. Questo non esiste. Eccoci qui, caro Parenzo, eccoci qui. Dove sei? Dove sono? Sto uscendo dalle prove di in onda. Oddio mio. Programma che partirà stasera alle 20.30 sulla sede, ma non è di questo che tu vuoi parlare, quindi mi sto mettendo in un posto dove tu mi puoi sentire benissimo. No, ma io ti sento, ah, ti sento molto bene, ti sento molto bene. Molto bene. Non c'è problema. Anche molto carico, no? Adesso ti faccio ascoltare però prima dei titoli. È andato via il signor Fiore, no? Sì, ma dopo torna, non ti preoccupare, no, dopo torna. Dopo torna, dopo dove torna. A fare un convegno sui Rom? No, sui no, Rom, no, no, no, sui no. Sui Rom. No, aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, voglio farti ascoltare una delle voci top, diciamo, del giorno, del weekend, che è il Monsignor Andrea Gemma. Monsignor Andrea Gemma, signor Andrea Gemma, qualche giorno fa su Sat 2000, la televisione dei vescovi, cosa ha detto Monsignor Andrea Gemma? Che è uno di quelli che si possono chiamare esorcisti, cioè quelli che come? Tirano fuori il diavolo dalle persone che secondo loro sono indiavolate, indiavolate. Ha fatto questo paragone, poi ci sono vari distinguo, precisazioni, eccetera, eccetera. Però nella sostanza, diciamo, sgrassando tutto, la realtà è questa, che ha paragonato gli indemoniati ai down. Ma si vergogna e si dimetta. Ma dimetta da cosa? Da che si cosa si deve dimettere? Ma si, si dimetta da che? Non ci si può dimettere da esorcista. Ma non credo proprio. Si dimetta da esorcista. Si vergogni e si dimetta. Ma da cosa si deve dimettere? Ma adesso dai, io adesso amico mio, anche l'esorcista mi inviti alla grande, una cosa incredibile. Ma non è invitato, no? A parte che lo vorrei invitare alla grandissima. Manca a parte... solo Moira con gli elefanti a questo punto, mi inviti l'esorcista, scusa. Sentilo, sentilo. Sentiamo. È successo poco meno di una settimana fa, un posseduto che come conseguenza della sua possessione è diventato simile, mi spiego, a un down, quindi non capisce, fa gesti. E poi insiste, ancora, senti. Ma non capisce lui? No, ma ha utilizzato, lui voleva descrivere cosa succede quando incontra un cosiddetto indemoniato, no? Da denunzia sarebbe, ma guarda, che da denunzia. Denunzia. Io fossi il padre di un bambino down, lo avrei denunziato. Ma basta di ridurre tutto a denunze, tribunali. Aspetta un attimo, Ma un uomo così, ma può offendere i danni? Ma non c'è. Allora, il problema è questo, voleva descrivere. Fammi sentire comunque, scusa, non voglio fare. Fai, è giusto, facciamo parlare queste persone, è giusto che la gente si renda conto, facciamo parlare questo alto prelato. Sentiamo. Abbiamo dovuto tenerlo con forza, tanto era cambiato il suo atteggiamento. Voi conoscete un bambino di quelli che chiamiamo psicolabili o disabili, no? Che fanno dei gesti inconsulti. Quando, costretto dall'esorcismo, il demonio che lo ha ridotto in quello stato è stato costretto a manifestarsi, è diventato un altro, è diventato un boxeur, è diventato un mostro che addentava e graffiava, cosa che non fa abitualmente. Questi sono fatti, amici miei, e venite. Venite, io lo voglio alla Zanzara, ospite per un mese intero, sì, il mese di luglio, il signor Gemma, Monsignor Andrea Gemma, il quale è l'unico, come dire... Fa l'esorcista tuo signore, no? Sì, fa l'esorcista, allora qual è il problema? No, perché è il mestiere d'esorcista. Da cosa si deve... Ma c'è un albo degli esorcisti, come funziona? Ma non prendere in giro una cosa che è assolutamente importante, come salvare le persone possedute dal demonio e dal diavolo. Dal demonio, una cosa dal demonio. È una cosa importantissima. E ti sembra utile su una radio nazionale spaventare gli ascoltatori con queste cose? Ma io non ho spaventato nessuno. Mi sembra giusto parlare dell'esistenza del diavolo? È una cosa incredibile. Aspetta un attimo, il punto è un altro. Questo signore, il signor Gemma, Monsignor Gemma, non signore, Monsignor Gemma, ha sbagliato in una cosa, è stata quella di, come dire, utilizzare la questione dei down per descrivere il comportamento di coloro che vengono colpiti dal diavolo, che sono posseduti dal diavolo, perché insomma ci sono tra l'altro diverse forme, no, di sindrome di down, eccetera eccetera. Dunque magari chieda scusa, però dimettersi non poi si capisce. Poi li ha definiti, no, ma un'altra roba gravissima, che li ha definiti psicolabili. Ma lui lo sa che la maggior parte dei down, con, come dire, sfumature diverse, sono persone assolutamente normali, che lavorano, scrivono, pensano, hanno sentimenti psicolabili. Ma come si permette? Ma deve dimettersi subito! Ma da cosa dimettersi? Titoli del TG3. Titoli del TG3. Si dimetta. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Vertice a Palazzo Chigi sui tagli alla spesa, possibili risparmi per 10 miliardi, Bersani inaccettabili interventi sul sociale, il PDL no cambiale in bianco, risparmi su statali e sanità, sindacati sul piede di guerra, Bonanni, mobilitazioni in tutta Italia, Angeletti pronti allo sciopero, domani incontro con il governo. Emergenza disoccupazione giovanile ha superato il 36%, mai così alto, in Europa peggio solo Grecia e Spagna che sono al 50%. Bene i mercati, lo spread in calo, ma Olanda e Finlandia vogliono bloccare lo scudo, Merkel sul vertice, decisioni coerenti con la nostra linea, Romano Prodi al TG3. Tutt'altro che indolore il passaggio di consegne tra Bossi e Maroni, sospetti del vecchio leader e una Lega ancora divisa che deve digerire il cambio di un'epoca. Ancora strage di donne, oggi Alessandra è uccisa dal marito con le forbici, qualche giorno fa Stefania, massacrata con un mattarello dal compagno. Gli azzurri ricevuti al Quirinale, Prandelli orgoglioso della squadra, siamo un paese vecchio, servono idee nuove, abbiamo portato il coraggio di cambiare. Saprogio e me, perché c'ho da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio e me, perché non se papà? Non è un problema mio se temi la diversità. Diciamo che a sto mondo ognuno è libero di fare della propria vita tutto quello che gli pare. E se non sei d'accordo. E questo è il nuovo inno della zanzara, caro Parenzo. Il nuovo inno della zanzara che vuole introdurre cosa? Vuole introdurre chi? Un nuovo protagonista dell'omofobia italiana intercettato dalla zanzara. Un nuovo protagonista che si impersonifica, si materializza nelle forme di un consigliere regionale del Veneto, il signor Santino Bozza, compagno di una deputata molto vicina a Bossi, anzi una delle ultime bossiane rimaste in piedi, la senatrice, la deputata, anzi Goisis, Paola Goisis. Santino Bozza e i gay. Io, a me non piacciono proprio, guai se ce ne sono dentro, mi stacco su tutto di qualche metro. Probabilmente mi giro anche, sono assolutamente contro quello che è diverso, nel senso, io so che purtroppo esistono, ci sono malati, c'è un sacco di cose, io li considero diversi. Questa voce roca, rauca, da maschio, il signor Bozza. Fare l'amore, ma lei la penna dove la mette? La mamma penna. Ma quale amore? Due uomini che fanno l'amore, ma le sembra amore? Ma è schifezza quella lì. Ma lei la penna dove la mette? La metterà nel calamaio, la metterà, non so, io non la metto ai geni, nel naturale, ci mancherebbe altro. Tutto il resto, secondo me, è solo sesso, porcherie. Allora, io la vedo così, capito? Dopo, e ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Ma lo sputo me l'avete messo, lo sputo? Due che si baciano, lo sputo per terra? Me l'avete messo dalla regia, non me l'avete messo questo passaggio fondamentale? C'è o non c'è lo sputo? Ma in mezzo a cosa? In mezzo a qualcuno, mi dicono, in mezzo a qualche cosa. Dove? Diversi malati, mi giro, forse questo? Sentiamo questo, proviamo, tanto è uguale. E allora dov'è? Dove ve l'avete messo? Dove ve l'avete? Non in pubblico con i bambini, che ne so, sentiamo. Come lotta con la regia? No, a me non fanno schifo, perché ognuno ha diritto e può vivere come vuole. Ma che vengano riconosciuti. Che vadano per le piazze, i giardini, accarezzandoci, magari so, toccandosi con i bambini oggi, ma ci mancherebbe altro. Purtroppo, ripeto, ci sono, devono vivere, io li lascio vivere, però detesto che vengano nelle piazze, davanti ai nostri figli, magari bambini di una certa età, che si chiedono cosa fanno questi. Basta la cosa dice la mamma a tuo bambino. Io ho visto anche in pubblico fare certi atti, ossieni roba là. Cosa insegniamo ai nostri figli, ai nostri giovani, ai nostri bambini? Vabbè, non l'abbiamo trovato. 800 24 00 24, questa è la zanzara e questa è la performance di Santino Bozza, il signor Santino Bozza, consigliere regionale della Lega Nord. Signore, anche qui, signore. Ma lo vuoi un nuovo Borghezio di ieri o no? No, è Radio Padania, quelli che hanno tifato contro l'Italia. Travaglio come Radio Padania, diciamola tutta la verità. Travaglio come Radio Padania. Con linguaggio diverso, ma la sostanza come è questa. Radio Padania, uguale, insieme a Grillo e Notav. 4 elementi hanno tifato 4 contro altri italiani: Travaglio, Notav, Grillo, Radio Padania. Radio Padania, facciamo siamo campioni d'Europa, la Spagna, sentiamo. È finita! Siamo campioni d'Europa! Ciao, grazie! 0266203. Siamo campioni d'Europa! Siamo campioni d'Europa! Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio e me, e che ce posso fa? Sono libero del. Siamo qui, dove andiamo? Renzo da Monza, buonasera! Siamo alla spettacolo! Ah, Renzo Bossi, finalmente, bene! Buonasera! Dica! Era un po' che volevo chiamarvi. Sì. Perché il suo socio lì, Parenzo, sì. Irrita che stasera ho detto ho distinto chiamato, perché lui dà dell'imbecille, del pirla a tutti, ha detto. No, dipende. Nelle varie trasmissioni. Poi, do dell'imbecille a chi merita di essere qualificato tale, ma è un mio parere. Parenzo, lei sui gay che tanto strombazzate ha detto che in Italia oramai siamo 4 coglioni. Mi pare che il Papa attuale non sia molto favorevole ai gay. Ha detto che. Ma lui fa il suo mestiere, allora il Santo Padre. Parlare. Allora è uno dei 4 coglioni anche in. No, Italia. Assolutamente, non e mi allora metta in bocca a parole che l'ho detto. Ma il Santo Padre fa il suo lavoro, quello è il Signore, il Santo Padre, cioè non è che può dire cose diverse dalla dottrina della Chiesa, lei, no? Lei dà titoli. La trasmissione. Mi interessa, però a volte sì. Non riesco a sopportarla. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Qui dagli studi di Milano vi parla l'insettucolo di Radio 24, così definito dal signor Travaglio, Marco Travaglio. Semplicemente perché abbiamo espresso, a parte che insettucolo non è una cosa di cui vergognarsi, ma comunque forse nello spirito di Travaglio sì, semplicemente perché ci siamo permessi i due insettucoli, tra l'altro, non solo l'insettucolo, i due insettucoli di Radio 24 si sono permessi di esprimere delle piccolissime critiche, non sul fatto che Travaglio abbia tifato contro l'Italia, perché in fondo chi se ne frega, ma per le motivazioni. Non è che uno. Se è possibile. Come? Se è possibile, se è possibile esprimere un parere in dissenso da Marco Travaglio, se è possibile, se chiediamo l'autorizzazione. Se è consentito dal codice civile e dal codice penale, può darsi certo. Pure che fra poco non sarà più consentito. Ci siamo permessi di dire che tifare contro l'Italia perché altrimenti tutto viene coperto e tutti gli scandali vengono coperti, e dire che Bonucci e Buffon non devono stare in nazionale perché uno è indagato e l'altro forse non si sa bene, ha scommesso su delle partite, garantismo chi se ne frega. Ci sembrava una cosa, insomma, non particolarmente felice. Solo questo ci siamo permessi. Però se può darsi pure. Se è ancora possibile. Detto questo, sai, gli insettucoli non è che siano delle cose negative. Insomma, certo, detto in quel modo poteva sembrare, beh, quei due insettucoli. Poi mi rivolgo anche all'amico Vittorio Macioce del giornale, trattato a male parole dallo stesso Travaglio. Quel tale, un certo Macioce. Non so che ha detto. Macioce. Sì, certo, come se fosse una merda. Perché nella mentalità di Travaglio, chi non. Non è come dire, arrivato a un certo livello, non so di che cosa, di copie vendute, è tutta una merda, o di altri successi o pseudo tali in televisione o da altre parti, è tutto qualcosa di comunque da considerare di minore importanza. Vabbè, lasciamo perdere le cose tra noi giornalisti. No, ma tra l'altro gli insettucoli o gli insetti, diciamo, nell'ambiente sono fondamentali in natura. Beh sì, assolutamente. Mangiano, no? Hanno una loro funzione anche loro. Beh, le zanzare non troppo, diciamo. In un mondo senza zanzare, sai che roba sarebbe. Beh, non hanno grandi, non hanno credo, grandi i parassiti. Funzioni. Parassiti, no, servono. Dici? Vabbè, comunque, chi volevamo sentire? Ah, beh, Bossi è la teoria del complotto, che è tornata di grandissima attualità all'interno della Lega. Non se lo sono filato molto, devo dire, il signor Bossi. Quasi meglio l'esorcista, guarda. I servizi segreti sapevano di Belsito. Senti. Aveva l'amministratore sbagliato. Chiaro, io faccio fatica ancora adesso, che era troppo scemo, a credere che l'uomo, il nostro amministratore fosse legato all'Andrangheta, però pare che sia così. E allora se era così, chi lo sapeva doveva dirci. I servizi segreti lo sapevano, invece hanno aspettato per far crollare tutto quanto in testa alla Lega. La libertà servi di Roma fuori, Roma fuori, senza dubbi neri, senza dubbi neri pensamenti. Padania, mia bellella, sempre libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Senza dubbi neri, pensamenti. Cantate anche voi, bloccati sul grande raccordo anulare. Adania, sempre libera. Via le mani dal volante. Guarda avanti. No, perché via le mani dal volante? Via le mani dal volante, bellissimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Controtosi poi, sempre Bossi, eh. Imbecilli col tricolore. Senti. Guida il volo. Il sogno è una cosa sola. Lo dico per gli imbecilli che girano, che fanno parte della Lega e girano col tricolore, no? Il sogno è la Padania libera. Tutto per... C'erano fischi soprattutto, e poi Tosi ha rispedito al mittente altre polemiche sull'autista pagato, eccetera, eccetera. E vabbè, insomma, poi Bossi a un certo punto è tornato indietro e ha citato Salomone, le due donne, tutte cose che avete letto. La cosa incredibile è che a un certo punto dice: volevo poter nominare il 20% dei parlamentari, come se fosse una cosa dovuta. Volevo poter nominare il 20% dei parlamentari, dei dirigenti. Cioè, ancora questa abitudine al controllo, volevo poter nominare. Partito nominare. Padronale, appunto, senti, padronale, senti. Familiare, bisognerebbe dire, un partito familiare. Stavo prima guardando lo statuto votato, a vedere se qualcosa non sia cambiato, che io non sappia. Io volevo leggermi bene le regole. A scaso di, ad esempio, io volevo che il 20% dei parlamentari, dei consiglieri regionali, fossi io di indicarli, perché se no sto qui a fare. Padania bella e libera. Intanto l'onorevole Fava, Lega Nord, su Twitter, a proposito della vicenda di Bozza: qualcuno continua a far male alla Lega con certe idiozie, sarebbe meglio parlare di politica più che folklore e la stupidità in politica non essere più tollerabile. Finalmente qualcuno non ci attacca su queste cose, cioè qualcuno che non ci attacca direttamente dicendo la trasmissione, eccetera, eccetera. Certo. Bene, siamo qui ascoltatori e c'era ancora il signore da Monza che ti attaccava, caro Parenzo. Renzo, sentiamolo. Sì. Allora, concluda il suo intervento, tra virgolette. Sì, credevo che si era dimenticato. No, io non mi dimentico mai di nessuno. Io sono già intervenuto un'altra volta e ho dato del pallone gonfiato a Parenzo. Bene, questa volta cosa vuole dire? Che è un criminale? Cosa vuole dire? No, niente, vabbè, che si regoli. E poi un'ultima cosa, sì? Voi due col vostro antileghismo, sì, ci porterete voti quando si andrà a votare. Ma io non sono antileghista manco per niente, lei non ha capito nulla naturalmente, ma questo qua niente, è abbastanza normale. Se lei ancora pensa che i giornalisti, se lei ancora pensa dall'alto del suo scranno che i giornalisti possano, come dire, far spostare dei voti, se gli piace così, per carità. Sì, va bene. Grazie Renzo. Alessandro da Pisa. Alessandro da Pisa, buonasera. Non c'è Patrizio da Bergamo. Pronto? Vada Patrizio, vada. Sì, buonasera. In merito a quel fatto di quel ragazzo che è stato arrestato per aver esposto la bandiera nazista. Arrestato e poi scarcerato, sì. Io analogamente lo farei nello stesso modo chi magari espone altri tipi di bandiere, tipo non so, quella falce martello. E perché scusi? Perché scusi? Non ho capito. A parte che la falce martello per tanti anni è stata all'interno del simbolo di un partito, è stato il simbolo di un partito, per cui insomma c'è anche una storia da questo punto di vista. Per me non devono arrestare nessuno, questa è la mia opinione. Anche per me non devono arrestare nessuno. E la due. Dunque, analogamente ci vorrebbe un uguale trattamento per chiunque, no? Scusi, però a prescindere da tutto, perché le ha dato fastidio che un signore che espone la bandiera nazista sia fermato per qualche ora dalla polizia di Stato e vengano controllati i documenti e altre cose? Tra l'altro a casa sua sono stati scoperti anche dei simboli, delle adesso non so esattamente, insomma è stato trovato qualcosa di interessante. È normale, uno si informa se questo personaggio può essere un personaggio pericoloso, chi è, chi non è, mi sembrano cose abbastanza normali. Non è che tutti i giorni vediamo persone che vanno in giro a sventolare bandiere del Terzo Reich, abbia pazienza. Beh, sicuramente sì, e infatti è deplorevole, anche a me non piace, però secondo me si fa di tutto nel buon fascio e c'è qualcosa che non va, comunque. Ma sia tutta lei da un fascio? Chi? Non ho capito. Si tolgono altre bandiere, quali? Scusi, la bandiera con la falce e martello è stata per anni il simbolo di un partito, oggi diciamo che non è molto presente all'interno dei simboli dei partiti, tranne la sinistra cosiddetta radicale estrema, Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani, non si prevedono norme per l'apologia di comunismo in Italia, a meno che lei non voglia introdurre questa norma qua, cioè l'abolizione, il divieto di chiamarsi Partito Comunista. Beh, sì. Sì, sì, benissimo, sì. Bene, Alessandro da Pisa, buonasera, l'abbiamo recuperato. Vada. Buonasera, Cruciani. Allora? Complimenti per la trasmissione. Vada, vada, Alessandro. Sì, se no la chiamo per esprimere il mio disagio mentale, che sono un individuo etero, sono eterosessuale. Lei è eterosessuale? Vabbè, chi se ne frega? Mi sembra di essere fuori dal mondo. E perché, scusi? Perché? Perché non ho l'apertura mentale molto corretta. Non ha un'apertura mentale corretta? Chiedo scusa se credo che la donna sia fatta per essere amata e non l'uomo. Se credo che un bimbo abbia bisogno del babbo e della mamma, mi sento in colpa di avere questi pensieri. Ma perché si deve sentire in colpa? Alessandro, capisco la sua ironia. Credo che una società fatta di omosessuali non sia il meglio da auspicarsi. Ma nessuno auspica, scusi un attimo. Ma perché dovete... Io la vostra trasmissione mi piace, vi ascolto tutte le sere, ma siete così là. Finavola con questi omosessuali, sono loro, sono una potenza, lo sanno di essere, tutti i giorni in un modo o in un altro vogliono si parli di loro. Ma la potenza di cosa? Ma la potenza di chi? Basta, loro sono liberi di fare quello che vogliono, se si vogliono sposare io non sono d'accordo, però possono andare dal notaio, lasciarsi i loro beni in maniera se uno si sente male o poi muore, o dei problemi, no, sono un falso problema e quindi... Sono tutti i giorni sulla cresta dell'onda. Scusi un attimo, a parte la cosa sulla cresta dell'onda, sono tutti i giorni in onda su Radio 24, va benissimo. Però io vorrei capire una cosa, caro Alessandro. Perché lei dice che hanno invaso il mondo, c'è il pericolo che diventiamo tutti omosessuali? Non ho capito. No, io non penso che si diventi tutti omosessuali. Però se in una società organizzata si deve tendere a migliorarci tutti, allora? Tutti, noi essere più comprensivi nei confronti allora? Degli omosessuali, voglio dire, il punto d'arrivo qual è? Una società migliore. Allora, siccome qui si comincia a ascoltando una media, società dove... alcuni media, sembra quasi che la società migliore sia una società fatta di omosessuali. Ma chi ha detto che c'è una società fatta di solo omosessuali? Detto, chi l'ha detto? Un messaggio continuo così. Ma quale messaggio? Ma la faccia finita. Un piccolo messaggetto così, fatto soft. Ma nessuno vuole diffondere nessun messaggio. Guardi, non si preoccupi, non si preoccupi. Eccoci qui, 800 24 00 24. Andiamo a sentire un ascoltatore prima di un ospite che ci ha raggiunto, uno degli ultimi bossiani, perché ormai sembrano almeno all'apparenza essere ridotti come gli ultimi giapponesi. Ti ricordi, Parenzo, no? Gli ultimi giapponesi. Come no, come no. Bisogna dire che la guerra è finita, che è una nuova stagione. Però invece noi loro... che siamo esperti di queste cose vogliamo sentire anche la loro voce. No, soprattutto è la cosa più interessante. Perché altrimenti non è che possiamo sentire quelli che fanno i peana a Maroni. Noi vogliamo sentire quelli che fanno le pulci al signor Maroni. Ma non c'è dubbio, è la democrazia, è il dibattito, meno male. Mattia da Bergamo prima però. Signor Mattia. Sì, buongiorno. Ciao, sì, buonasera, anzi, però vabbè. In merito alla prima parte del programma in cui Parenzo non voleva salutare quel caro uomo di Forza Nuova. Ma chi è il fascista? Ma chi è il fascista? Sei un ipocrita, Parenzo, ma porca zozza. Siamo in un paese libero. Perché devi fare così? Ma perché? Se una persona intelligente. Giovanotto, ascoltatore della Zanzara, attento, dimmi. Ora parla accamerata Parenzo, che ti dice che in un paese civile e democratico, come ho detto prima, è evidente che se non hanno sciolto ancora Forza Nuova, vuol dire che rispetta tutte le leggi. Dopodiché io posso intervistare un ospite come il signor Fiore, ma detestarlo, e come persona io non stringerò mai la mano a una persona come Fiore. Ho il diritto di farlo, caro ben pensante, hai capito? Perché? Hai capito? Perché? Perché hai un colore diverso dal tuo? Perché ho diritto di farlo. Questo è razzismo. Non è razzismo, ma lei, a lei stringe la mano a tutti. Se lei stringe la mano a chiunque. Perché? Se lei stringe la mano a chiunque. Se lei stringe la mano a chiunque, sono fattacci suoi. Io ho ancora il diritto, fino a quando lei me lo consentirà, di scegliere a chi stringere la mano. Dopodiché, siccome faccio questo mestiere e condivido con Cruciani il fatto che tutti vanno intervistati, in special modo i mostri brutti, sporchi e cattivi, in special modo quelli, mi fa piacere giornalisticamente che il signor Fiore abbia partecipato alla nostra trasmissione. Non gli stringerò mai la mano, hai capito? Fatene una ragione. Va bene, qui c'era una contraddizione, però, Mattia dice se tu lo inviti poi non puoi dire non gli stringo la mano perché è fascista, cioè, se lo inviti, gli faccio le domande e gli dico in pubblico che non gli stringerei mai la mano, ma glielo ripeto ancora. Va bene. Non gli stringo la mano. Va bene, non Mattia. Stringo la mano ai fascisti, io. Non glielo va stringo. Bene, va bene. Va bene, dai, va bene. Va tu bene, non stringi la mano, che te devo? Io la stringo, sì, non me ne frega niente, la stringo. Va bene, sì. Non me ne frega niente. La io stringerei anche ad Eichmann la mano, che me ne frega stringere la mano? Assolutamente no. Io a quelli che pensano quelle cose non stringo la mano, lo posso fare. Ma stringere la mano no? non è un simbolo di riconoscimento. Stringere la mano in quelle è un atto importante, perché riconosci il tuo interlocutore. E perché non lo riconosci, però lo intervisti, ma sei pazzo. Ma è un soggetto politico, pur c'è. Ma riconoscerlo, come vuol dire, esiste, lo devi riconoscere come persona, posso portatrice di idee. A chi stringere la mano, no? Ma non sì, va bene, va e benissimo. Allora basta, va benissimo. 800 24 00 24, è con noi il senatore Giovanni Torri, parmigiano ormai trapiantato in Lombardia, però della Lega Nord. Buonasera. Salve ragazzi, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Speriamo di Ciao, non rientrare Torri. Nella categoria di quelli sporchi. No, no, perché? Anzi, no, che sporchi, no, sporchi adesso. Magari no. Brutti. Magari no, brutti non lo so. No, cattivo, cattivo forse sì, ma insomma sa. Allora, il senatore Torri, innanzitutto è abituato a girare anche per il Senato con la camicia verde, così? No, ma sono abituato a girare per il Senato, io non me la tolgo finché non arriva il governo Monti, presumo che me la dovrò togliere quando cade la legislatura. Questo l'ho promesso durante un intervento in aula, ma è un fatto di coerenza. Cioè lei non ha capito, ha indossato, scusi un attimo, indossa la camicia verde solamente in aula oppure anche fuori dall'aula? No, beh, anche fuori dall'aula, se sono a Roma che giro intorno, non è che mi sto a cambiare perché entro in aula. Cioè quando sono giù a Roma normalmente se ho la camicia verde mi trovo in aula. La camicia verde con scritto sopra, lo ricordiamo, Padania, Comitato Liberazione. No, quella no, quella storica, quella no, perché è sotto pesante, abbiamo delle camicie. Ho una camicia leggermente un po' più tra virgolette elegante, già sì. Con una camicia verde presumo che i colleghi no. Insomma, ci vado con fierezza e no, ma questo è d'accordo, verde col simbolo della Padania dalla parte del cuore. Della Padania, benissimo, dalla parte del cuore. Vabbè, ma questo poco male, gli piace la camicia verde, no, vabbè, camicia infatti verde. No, ma è curiosa la cosa, è curiosa, ma anche divertente in mezzo a tutte quelle grisaglie che si vedono, anche divertente. No, la cosa curiosa è che lui l'ha indossata dall'inizio del governo Monti, l'ha indossata evidentemente, se l'ha cambiata, lavata qualche volta, appunto, ma quante ne ha? C'erano molte, essendo dentro da tanti anni, essendo un simbolo nostro, il verde risale al 96, credo che. Quante no. Camicie ha, per esempio? Non lo so, no, andiamo a stock, presumo che ce ne avrò comunque una settantina ce ne ho. Una settantina di camicie verdi, lei ha? Insomma, ragazzi, sono 16 anni, voglio dire, se tu le utilizzi, un po' te le regalavano, un po' le compravi anche da tenere a ricordo, come fu i simboli delle varie nazioni. Questo è rassicurante, diciamo, perché gli sta vicino che si cambia la camicia, va benissimo. Beh, ragazzi, insomma, è brutto e cattivo, sì, ma sporco. Sporco. Lei fa la doccia ogni quanto, ad esempio? Ogni quanto fa la doccia lei? Mediamente due volte al giorno. Ah, due al giorno? Ragazzi. Ha tempo di fare la doccia due volte al giorno? Io sì. Ma scusa, ma è normale, ma che vuoi, che non si lavi? No, ragazzi, guardate, poi tra l'altro sono i parlamentari, non è che, no. Ma fa la doccia dove? Alla camera? Fa la doccia dove? Lì nei bagni della camera? No, io ho l'appartamentino a Roma, molto vicino, pago la quindi regolare, la camera, non è nero, ho fatto un contratto all'epoca regolare. Scusi, quindi, senatore Torri, però al di là di dove abita lei a Roma, non so perché Parenzo è fissato su questo argomento. Parenzo è un rompicoglioni, lo sa. Sì, è un rompicoglioni, non c'è dubbio, però rompicoglioni sulla casa, eccetera, su dove abita lei a Roma, sì, va bene, interessante, però insomma è un monolocale in affitto, ci ha detto, vabbè. Io la cosa che voglio capire da lei però è se Bossi dice che la sua camicia è bianca, ecco, sì, e invece è verde, lei che cosa fa? Perché sa, questa fu una... No, se Bossi non è che se mi dice che è bianca e ce ne fu una verde, bisogna dire che è daltonico. Non ce ne siamo mai accorti, ma non credo avrà una malattia agli occhi. Esatto. Se mi dice che devo mettere una camicia bianca, potrei dirgli anche di andare a cagare. Ah beh, dunque, se Bossi dice si tolga senatore Torri, si tolga la camicia verde perché adesso non va più di moda. Lei... No, non va più di moda, mi deve spiegare il motivo del perché non va di moda. Se mi dice che non va più di moda perché hanno deciso un nuovo corso politico, va bene, magari può essere che io la camicia bianca continuo a tenere quella verde. Scusi un attimo, ma secondo lei la nuova Lega di Maroni toglierà tutte queste robe qui, la camicia verde, cioè prima o poi verranno cancellate queste cose? Non lo so, io prendo atto che, insomma, se vediamo la foto del quadretto finale del congresso, camicia di roba verde sul palco quando hanno fatto la foto finale c'è poco. Però, ma voglio dire, ma questo qua non so, dipende se si vuole mantenere l'idea di avere dei simboli o meno. Io credo che molto è strutturato sui nostri simboli, per cui Ma questa di Maroni le sembra una Lega un po', come dire, un po' democristiana, un po' anacquata, diciamo, non democristiana, una Lega un po' anacquata. Abbiamo un decorso, no, facciamo gli auguri, però così vediamo, come impressione, diciamo così, invece un po' anacquata magari, no? Un po'. Ma diciamo così che qualcheduno dei vari segretari nazionali, insomma, non è che sia felicemente partito con i simboli vecchi, no? Per i simboli non si parla, la simbologia è quella solita che abbiamo sempre tutti questi anni, no? Cioè, voglio dire, però prendiamo atto, non lo so. Scusi, però Bossi l'hanno fatto fuori, l'hanno emarginato, diciamo la verità, insomma, questo si può dire. Ragazzi, questo non lo devo mica dire io. No, io lo dica. Ho capito, però insomma è evidente che l'hanno emarginato, insomma mi sembra fuori. Io durante il congresso non ho votato né lo statuto né nel segretario in pectore, dunque. Cioè non ha votato nessuno lei? No, non ha votato lo statuto. Ma perché non esce dalla Lega? Perché non esce dalla Lega? Lei per esempio va al Senato col gruppo di Rosi Mauro, comunque nel movimento. Ma scusi, io se gli ho fatto un ragionamento estremamente serio, che è quello della coerenza, no? Se succederà che loro saranno molto meno coerenti, toglieranno tutti i simboli, arrelegheranno Bossi dentro una teca in maniera palese, si vedrà, no? Ma è già dentro la teca? Voglio dire, sono un po' dispiaciuto perché vedo che, insomma, c'è un po' di soffocamento, c'è stato anche il discorso dell'ala indipendentista. Non lo so, vediamo, no? Vediamo. Io sono una persona estremamente chiara. Però scusi, senatore Torri, mi dica la verità, dia una definizione di Maroni, del nuovo segretario, una definizione però lapidare in 30 secondi, la sua definizione, quello che sente dentro, un traditore, uno che ha accantonato... Secondo me è stato un bravo ministro, che però non abbia la dedizione che aveva Bossi per andare in mezzo alla gente padana. Cioè non ha lo stesso carisma? Voglio dire, a Bossi gli davano i bambini in mano perché si è fatto... casa per casa, io ho detto anche il congresso, e lui invece? Il segretario, quando si farà anche lui casa per casa, perché cioè, insomma, se si utilizza Facebook lo vedo un po' farloco, no? Cioè uno che utilizza Facebook? No, nel senso, Facebook va bene, però il contatto con la gente, cioè, tu ti fidi quando uno lo vedi nelle biglie degli occhi, non è che ti fidi quando... Cioè a Bossi davano i bambini in mano, Maroni è troppo... No, glieli daranno anche a lui. Bah, vediamo, bisogna vedere. Non lo so, adesso la storia è un po', no? Sono esattamente un poche ore che segretario. Padania bella e libera, guarda avanti. Canta con me, Parenzo. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania sempre libera, bella, guarda avanti. Cari amici che siete sul grande raccordo anulare, premete sull'acceleratore, togliete le mani dal volante e cantate con noi. Servi di Roma fuori. Lei la conosce, senatore Torri, questa canzone? Sto ridendo perché togliete le mani dal volante, il grande Parenzo vuol fare dei morti, insomma. Senta, ma lei quando va a Roma? No, ragazzi, la conosco perché me la sono ciucciata 4 mesi a fare la famosa marcia del sale, quando non solo Sputi ci lanciavano anche i sassi. Addirittura, e quando? A Prato ci hanno trittato tutti gli automezzi, allora, nel 97. Com'era la marcia? Che non me la ricordo più. La marcia del sole. Ah, la marcia del sole. Siete stati aggrediti? Sono stato in giro 4 mesi avevamo 5 o 6 camper e 13 furgoni. Eravamo una carovana che girava per tutta la Padania. Che tempi quelli, Portavamo i comizi in tutti i paesi, eravamo facevamo logistica per poter far fare tutti i comizi a Bossi e ai vari parlamentari durante le elezioni. Senta, ma Bossi periodo... ancora che può fare secondo lei? Chi? Bossi. Ma io credo che sia un saggio, sia uno che possa dare ancora delle indicazioni. E non lo so, dipende come... come lo vogliono ascoltare. Il consigliere diventa dura, no? Ma va ancora ascoltato secondo lei? Ma guardate, io credo che vada ascoltato, io credo di sì. In alcune cose lui vede ancora più avanti di altre. Lei dice, alcune cose sono come sì. Lei dice. Ma possiamo paragonarlo, ma lei, ma è d'accordo? Al grande Puffo possiamo paragonarlo. Ma che c'entra, no? Il grande Puffo adesso, il grande Puffo. È fortissimo, ragazzi. Parenzo Bossi come il grande Puffo. Cioè, ma che c'entra il grande Puffo? Non lo so, ma io e te, Parenzo, potremmo andare presto a Zelig. Ma che bello, perché esiste la Padania, esistono anche. Io parlo degli eventi padani, tu parli delle altre robe. Ma le sto dicendo, che hai fatto in giro, le sto dicendo che se esiste la Padania, le sto dando ragione. Dico, esiste la Padania, benissimo. Esiste anche allora il grande Puffo e Gargamella, che è lo stato centralista. Uso il vostro linguaggio. Allora, Bossi è il grande Puffo. Il problema, sai cos'è? È il grande Puffo, no? Che mi viene in mente il Viagra. Potrebbe, perché col Viagra potremmo, come diceva la Dall'Ago, risollevare le sorti della Lega. Ma lei lo usa il Viagra, caro Torri? Beh, ragazzi, ho 52 anni, che cazzo stiamo di? E dunque? Sì? Troppo presto, dice lei, no? Troppo presto, ragazzi. Vabbè, ma sa, io trovo delle persone che fanno dei ragionamenti come il nostro amico Parenzo. Perché si arrabbia? La Padania esiste? Quando fai ragionamenti l'altro, poi sai che ci sia. Ma io faccio un ragionamento, io le chiedo, la Padania esiste, giusto? Vabbè, adesso abbiamo esaurito questa cosa dei grandi Puffi. Allora, io la cosa che voglio chiedere, però, anche Gargamella esiste, no, anche d'accordo, per secondo te la Padania è come il regno dei Puffi, no? Ma è evidente, come il mondo dei Puffi. Però mi sembra che con Maroni la questione della Padania, dell'indipendenza, caro Torri, abbia perda di consistenza o no? No, non lo so se perde di consistenza. Lui è al congresso ieri ha detto delle cose, tra virgolette, per chi le vuole capire, molto importanti, no? Ha detto che bisogna ritirare tutti i parlamentari, la delegazione parlamentare, cosa che io avevo già sul Fatto Quotidiano, avevo detto, ma secondo me dobbiamo andare sull'Aventino appena c'è stato il governo Monti, prendo atto che più Aventino di questo. Prendo atto che ci vogliono solo le persone che hanno un incarico solo, perché anche lì ho detto che quando siano due o tre incarichi diventa duro farne bene uno, immaginiamoci tre o quattro. Ha detto che così, vediamo se si tiene fede. E poi l'articolo 1 nostro è rimasto. E questa grande volontà, non so se parleranno di secessione, vediamo. Vediamo vuol dire, insomma, ragazzi, non ce lo vedi, non faccio un esempio, non ce lo vedo tosi con l'elmetto, però insomma lo metteremo nelle garette dietro a dirigere, no? Ma scusi, ma Tosi, Tosi prende un sacco di voti a Verona, no, lei non lo vedrà con l'elmetto, ma è uno che prende un sacco di voti. Adesso lo attaccate perché non è quello, perché non butta il tricolore dalla finestra. Ma che deve fare? Fa il sindaco di Verona. Ma assolutamente non ha capito. È il capo della Lega in Veneto. Sto dicendo, nella vita ci sarà anche, lo sa, no? Ci sono varie competenze. Lui farà la logistica, i combattimenti verranno fatti da altri, no? I combattimenti per cosa? Scusi, i combattimenti per cosa, dice lei? No, ma secondo lei si può secondo lei si può arrivare alla Padania anche per con le armi? Ma non lo so mica, secondo me la vedo dura, non ci sono le condizioni che lo possa dire la politica questa cosa. Ci può essere le condizioni che prima o poi, se si arriva vicino alla Grecia, magari qualcuno la mattina si incazza, ma poi bisogna vedere. No, capito, quindi... Non lo so. Cioè, non lo può dire un politico, ma lei si auspica una rivolta armata per l'indipendenza della Padania? Ma no, ragazzi, io mi auspico che qualcuno capisca che è ora di dare le autonomie alle regioni e si possa fare. E se non ci si arriva, E se non ci si arriva non lo so, io ho 52 anni, non so ancora quanto tempo posso dire la mia, no? Già adesso qualcuno potrebbe sparare o no? Ma non lo so, dipende dalle condizioni, ragazzi, io se volete dire che qualcuno deve sparare non ci credo, ma dipende dalle condizioni. No, lo chiediamo a lei. Io le faccio un esempio, quando quello là è andato nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, quello di Bergamo, no? Sì, sì. È una brava persona, ma mica sparato, ma se uno fuori di testa è un attimo, Ho capito, ma lei, per esempio, per l'indipendenza della Padania, farebbe, prenderebbe in mano le armi? E dipende cosa mi fa lo Stato italiano per farmi arrivare a quella condizione lì. Metta che non c'è l'autonomia come vuole lei. Le faccio un esempio semplice. Sì. Presente i famosi 300, cioè non ci sono le condizioni, spiego il motivo. In un paese, in un paese dove dicono a 300.000 persone che possono andare a giocare a bocce senza mangiare, senza lavorare, senza avere la pensione, non si incazza nessuno. E allora, se vuol dire, ci sono le condizioni tecniche. Ho capito, qua sono padani, no? Sono in stragrande maggioranza, dicono padani, no? Lo afferma anche il nostro segretario. E allora, vediamo, no? Non lo so. Certo che se andiamo là che gli diciamo che dobbiamo giocare a calcio balilla, non lo so, se si incalzano. Se gli diciamo, oh ragazzi, guardate che fra un po' bisogna mangiare i radicchi che sono dietro i fossi delle strade. Io però non ho capito una cosa, lei pensa che la rivolta armata sia un errore o pensa che in casi estremi... È un errore, però se dipende cosa succede, a presente. Ricordo che l'abbiamo già fatto, no? Io e lei, che discorso l'altra volta, della sede, no? Quando il nostro segretario ha morsicato il poliziotto, stavolta con la perquisizione che è arrivata stavolta gli sarebbe andata peggio, perché non avrebbe mica preso l'indennità. No, però io voglio capire un'altra cosa, Torri, io voglio capire da lei se le cose vanno male, se lo Stato non fa quello che voi volete, eccetera, eccetera, se è legittimo usare le armi. Lo Stato non fa quello che vogliamo, se fa una repressione. Ma non la repressione. Un popolo, se viene messo alla fame, bisognerà che decida di da qualche parte di fare del casino. Se fa del casino, e quindi voglio dire, se succede come nei paesi. Di che paese? Vicino a noi, delle primavere arabe, voglio dire, se ti cominciano a dare due silurotti perché te protesti, può essere che uno non stia mica più fermo, no? Vabbè. Chiaro, no, il concetto? Sì, se noi protestiamo per delle cose che non vanno bene durante la manifestazione, invece che dirti di andare a casa, ti piantano due o tre lacrimogeni a altezza d'uomo, avete presente che poi magari uno si incazza, no? Lei dice, Parenzo, che stai facendo nel frattempo? Parenzo? No, ma dico, cosa c'entra la Padania con le primavere arabe? Non ho capito il paragone tra Padania e primavere arabe. No, è tipo di repressione, no? Se un regime ti fa una repressione su delle proteste, è normale che la gente... Ma perché, scusi, c'è un regime in Italia? Adesso, per adesso c'è un mezzo regime, perché il governo non è mica votato dal popolo, no? Siamo commissariati. No, ho capito, lasci perdere adesso il governo Monti, comunque è votato dal Parlamento, eccetera. Beh, caro Parenzo, voglio farti risollevare un po' il morale, Beh, riproponendo, caro Parenzo, riproponendo cosa? Che ti fai sentire? Il Burgess. Qui intanto ti dico che c'è un clima di grande tensione, aspettativa, mancano pochi minuti alla discesa in campo di Filippo Facci e Natascia Lusenti. Ma noi ce ne stiamo fregando. Vuoi intervista a bordo campo? Ma non ce ne frega niente a noi, assolutamente nulla di questa cosa qua. Non ce ne frega. Però quello che dice è molto grave, perché questo qui è un programma molto innovativo, questo che c'è. Ma chi se ne frega? Lo dico in modo disinteressato. Esatto. L'indipendenza ci salva dall'infezione di Roma mafiosa, il Burgess scatenato. Sentiamo. Perché pensiamo che solo una Padania indipendente può pulirsi da quell'infezione mafiosa che Roma, ladrona e mafiosa, ci ha portato. E poi voglio sentire la mano di Borghezio battere sul palco del congresso, vi prego. Grande. Beh, la battaglia indipendentista continua. Il nuovo segretario, chiunque sia, se lo ficchi bene nelle orecchie. Noi indipendentisti ci siamo sempre, siamo il sangue della Lega, siamo Baluba, come dice qualcuno. Bene, sono orgoglioso di essere un Baluba con l'elmo, con le corna, anche perché non sono sposato e quindi non ci sono illazioni al riguardo. Ripeto, è fantastico il cambio di tono. Meraviglioso. Il cambio di tono, direi, è favoloso. Davvero comiziante. Dunque, mi pare di aver capito dal senatore Giovanni Torri, uno degli ultimi bossiani rimasti. Ma quanto siete rimasti bossiani, senatore Torri? Non lo so. Mi piace più il termine lealista. Lealista, che vuol dire? Non sono bossiano, ma lealista. No, sono bossiano lealista, perché io sono dipinto cerchista. Ormai c'è rimasto solo il punto del cerchio. Ormai il cerchio magico è stato sgominato. Perché è rimasto il punto? È rimasto il punto, cioè lei. Non so se dice anche un cerchista, ci sarà un punto del cerchio, c'è rimasto un punto solo, ragazzi. Ma lealista rispetto a chi? Invece gli altri che sono? No, ma nel senso che io rispetto, pieno rispetto per Maroni? Per il nuovo segretario valuteremo nei fatti, per Bossi, in quanto se tutto quello che ho messo in campo io, quello che ho creduto, sono arrivato a 25 anni di attività, vuol dire che ho creduto in una cosa seria. Sì, però adesso non faccio il democristiano, Torri, lei ha un sacco Non sono democristiano, è tutt'altro, non c'è la camicia bianca. Non c'è la camicia bianca. Ho capito. Il bianco si sporca troppo facilmente, a presente lo portano le suore. Però dice vedremo qui, vedremo lì. Ma perché non va con Rosy Mauro lei? Ma scusi, ma per quale motivo io non sono mica in disaccordo con l'attività politica, no? Posso essere in disaccordo con forse la scelta di alcuni personaggi, ma sono per esempio? Stati eletti democraticamente. Che personaggi? Voglio dire, sono stati eletti democraticamente. Io credo che ci siano alcuni segretari che magari non rispecchiano direttamente quello che è stato detto a Bergamo, ma è un problema, non è mica mio il problema, io non sono mica più un dirigente. No, non è più un dirigente? No, sono un semplice militante. Senta, ma lei ti fa per l'Italia o per la Spagna? Ma io guarda, io le devo sinceramente, la partita non l'ho vista. No, ma questo... ero con poche persone. Ma sa che a Radio Padania hanno fatto un sacco di tifo per la Spagna, no? Vabbè, insomma, questo qua può essere. Ma lei è contento che abbia perso l'Italia? Io voglio dire, io sono abbastanza moderatamente contento, soprattutto dei 4 gol, perché questo che stasera ha regalato il pallone al Presidente della Repubblica, speriamo che le abbia dato quello dove che hanno usato prendere i 4 gol, che almeno era un reperto storico. Lei dice, Insomma, lo mettevano in garage a monito perché, ragazzi, credo che molti porti una discreta sfiga. Questo forse, però è andato con la partita. Ragazzi, vi dico, ma adesso vi dico il motivo, no? Cioè, voglio dire, sei stato eletto senatore a vita in un modo abbastanza rocambolesco, velocemente. Poi? Hanno detto che eri estremamente intelligente, mettevi a posto tutti i conti, c'è qualche ministro come la Fornero che insomma c'è qualche difficoltà nel capire i dati. Se vuoi anche sfidare la sorte e vuoi andare a fare il fenomeno in tribuna per prenderti in mano la palla come era successo per Tini, insomma sei un bel masochista. Ho capito, però può andare bene, può andare male, che vuol dire? No? Ho capito, sarà pure portatore sano di sfiga, ha perso, però non è che uno va alla partita. Voglio dire, poteva stare a casa, no? Farsi i cazzi suoi un attimo, perché forse gli italiani volevano di più. Questo non lo so, però in questo caso, sai, cioè uno bisogna anche sfidare le consiglio. Oh, ce ne sono tanti che vuole sfidare le sorti nella vita. No, più che altro aveva detto che il calcio andava sospeso per 2-3 anni, fosse stato per lui, eccetera, eccetera. Senta, ma lei sulla questione omosessuale com'è schierato, signor senatore Torri? Ma io non ho velleità di alcun tipo di persecuzione su... Persecuzione nessuno, spero. Persecuzione no, nessuno. No, sono per la famiglia tradizionale. È quello, d'accordo, la famiglia... c'è un adesso c'è in campo da noi il fatto etico, dove si dice che non bisogna fare battaglie... Non lo so fino a che punto sia forse corretto, era un tema che è stato dibattuto al congresso. Lo so, appunto, invece ci sono alcuni che dicono... Io voterò sempre secondo coscienza, voglio dire, ma allora dovremmo farlo anche sul discorso della giunta delle elezioni, no? Sì, però diciamo la verità, senatore Torri, il punto è questo, se lei per strada incrocia due uomini che si danno un bacio sulle labbra, qual è la sua reazione? E potrei dirgli vada via il cul, ma è normale, nel senso affettuoso, non è che mi suicido perché... ma che vuol dire vada via il cul? Nel senso, caso, vuol dire, in questo momento hai così bisogno di un atto irrefrenabile, poi dipende se sono... Un bacio. Piazza Duomo, sì. Diciamo che... esibizionismo, no? Perché? Può essere un gesto d'amore. Insomma, se lo fai in Piazza Duomo davanti che è piena, poi sarà un gesto affettivo, va bene. Appunto, dico. So, appunto. Vabbè, sarà. Ma non è molto più esibizionista andare sul prato di Pontida con le corna in testa a mangiare polenta taragna? Cioè, voglio dire, pintare una foto più di... Perché o andare no, sul Po a prendere dell'acqua e dire che è acqua sacra. Tanto. No, perché la cosa... è circoscritta al prato di Pontida, Scusi, è però preoccupante se con le corna sì. ci vai dovunque tutti i giorni, allora diventa un problema, perché le corna non è che devono andare tutti i giorni come simbologia, no? E dunque che gli facciamo a questi due? Lei con un figlio gay cosa farebbe? Insomma, mi rassegno, ma qualche cioè, diciamo che mi rassegno, ma faccio qualche fioretto, lo vado a fare, qualche passeggiata a Caravaggio, sono vicino al santuario, la faccio per vedere se me lo gli fa provare anche qualcos'altro, tutto lì. E come fa? Ah, dice lei, fa appello. Si sa mai che faccia una scelta dopo. Un miracolo, dice, che mi salvi mio figlio, no? Se si parte solo da magari se prova anche qualcos'altro Ho capito, ma quello là quello lo deve scegliere lui. Appunto, però insomma, se c'è la possibilità di provare qualcos'altro, magari magari cambia, no? No, cambia, non lo so, ma magari perlomeno fa la scelta. Ho capito, Torri, però diciamo la verità, si dispera lei, figlio omosessuale, che ma fa? No, cioè, cosa devo fare? E che ne so? Mi dispero. Come tutte le cose, come uno che c'è un figlio drogato, cosa fa? Si dispera, si incazza perché è un problema che non è neanche paragonabile assolutamente al discorso degli omosessuali. Però cosa fa? Può mica sparare a un figlio perché si droga, no? Certo, se il figlio ti vuole ammazzare la notte e te ne accorgi che c'è il coltello in mano, te ne accortellata, sarà un bel lavoro che te lo fai fuori. Dunque testa, un figlio omosessuale è un figlio malato? Ah, malato no, cioè è uno che ha voluto fare una scelta di vita probabilmente è diversa nei confronti della società. Infelice, diciamo, un infelice. Sa benissimo che intraprende la strada pesante, no? Diventa un infelice, insomma, condannato all'infelicità. No, infelice non lo so, può essere felicissimo, però voglio dire, la società è abbastanza farlocca e falsa, no? Ti dicono tutti va bene, però quando girano la spada dicono fia il culattone. Se no siamo ipocriti, no? Sì, dunque meglio non essere omosessuali, come dire. No, non lo so, però ti dico, intraprendi una strada dove c'è da tribolare molto. Ah, non c'è dubbio. È come noi se domattina diventiamo tutti democristiani, più bravo Casini, Ah beh, non c'è dubbio. Siamo qui, 20 e 21, Antonio da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Certo che mi mettete a dura prova i vostri ascoltatori, nell'attesa sentire... La sentiamo molto male, la sentiamo molto male, adesso la richiamiamo. Franco da Milano. Pronti, buonasera a voi. C'è un'ambulanza, sento, o una sirena? Sì, sono in mezzo alla strada. In mezzo alla strada. Sono tutti i rumori della strada. Dica, Franco. Dunque, senta, una persona intelligente come lei, comprendendo anche il tipo di trasmissione, spettacolo che fa, come fa a sopportare un primo della classe come Parenzo? È una cosa insopportabile, giudice insindacabile. Beh, giudice insindacabile, spara, adesso non esageriamo. Spara sentenze su tutto, lei è il più intelligente. Ma è messo qui apposta, siamo tutti qui apposta per dire la nostra, non è così strano, caro Franco, non è una cosa strana. È insopportabile, le assicuro, guardi, oddio. Se fonda un club di quelli che non sopportano Parenzo, troverà molte, molte... Ma chi è il dittatore Franco? Eccomi? È il dittatore Franco, dico? No, io non sono un educatore. Il famoso dittatore Franco, no? Se lo ricorda il dittatore Franco? No, non mi ricordo il dittatore Franco. Non sa chi è il dittatore Franco? Io sono un ascoltatore e come tale esprimo la mia opinione. Ma lei benissimo. È un personaggio insopportabile, dal mio punto di vista. Poi a tante migliaia di altre persone piacerà. A me io la trovo insopportabile. Ma cosa trova di insopportabile? Cosa trova di insopportabile? La sua supponenza. Lui è il primo della classe. Lui sa tutto di tutti. Ma esprimere la propria opinione, caro Franco, non significa sentirsi i primi della classe. Assolutamente. No, non siamo mica travaglio qui. Lei esprime la sua opinione in un certo modo. Ma guardi, lui che sono molto più modo fastidioso. Sono molto più duro di Parenzo in molti casi. Ma in un modo diverso, molto più logico, diverso. Lui è l'oracolo. Comunque, Franco, io le voglio dire una cosa. Se lei mi invita a casa sua una sera a cena, una bella bottiglia di vino, un ottimo spaghettino un ottimo spaghettino di pesce, io ci vengo, vede come sono democratico? Sì, vabbè, ho capito. No, sono democratico, parlo con tutti, vengo anche a casa sua. Va bene, Franco, grazie. Stefano da Torino, buonasera Stefano. Buonasera Cruciani e Parenzo. Che succede, Parenzo? Non ho capito. No, ho detto che andavo, se mi invita, vado a casa sua a dialogare volentieri con lui, figuriamoci. Non è che sono mica uno che vive nella torre Eburnea, no? Sì, ok, ma è arrivato Tremonti lì, ospite di Nonda questa sera? Dunque, ecco, no, no, un momento, questo è importante. La notizia è questa. Sì. Tremonti sta per arrivare. Sì. Ma sarà collegato dalla sede di Milano. Allora, questo rende difficile la possibilità che io... Ah, non era, non era prevista questa cosa qua dalla sede di Milano, no, oppure no? Sì, non era prevista. Non era prevista, ha dato forfè, diciamo, per la prima puntata ha dato forfè. No, anzi... Che figuraccia, che figuraccia, una cosa pazzesca. Doveva venire a Roma. È collegato da Milano. Vabbè, comunque, una figuraccia tremenda. È collegato da Milano, Tremonti. Stefano, sì, ma doveva venire a Roma in realtà. Non doveva venire a Roma, ho dato un'indicazione, ho detto una cosa, ma non doveva venire allora, a Roma. No, mi hai dato un'indicazione sbagliata. Era previsto già a Milano. Ora, se voglio provo ad andare a Milano, però inizia alle 8:30. No, no, Stefano da Torino, dai. Parenzo fa il bravo. Sì. Stefano, vada. Salve, salve. Senta, io vi seguo da diverso tempo. E quello che mi ha colpito è il suo tormentone e la domanda che fa spesso ai suoi ospiti rispetto al rispetto al fastidio che danno i baci dati in pubblico. Se due uomini si danno un bacio in pubblico, lei che cosa sente? Come reagisce? E a me è venuto da pensare una cosa. Io sono profondamente appassionato di maschi, li trovo giocattoli straordinari e non regalerei mai una rosa ad un maschio, però trovo che comincerai a fare una distinzione tra fastidio e turbamento. Io che trovo straordinaria i maschi, sono giostre meravigliose, però se vedo due uomini che si baciano in pubblico un po' resto turbato. Non infastidito, turbato. Ma che vuol dire turbato? Non ho capito. Allora si abitui anche lei. Lei è omosessuale? Sì, sì, certo, certo. Ma sa perché resto turbato? Cioè lei non ha mai baciato in pubblico il suo compagno, i suoi compagni, il suo fidanzato? No, no, no, non l'ho mai baciato in pubblico. Vabbè, ma... d'accordo, perché non è abituato a baciare in pubblico in generale. No, no, no, ma sa che cos'è che mi turba ma non mi dà fastidio? È il fatto che un atto così proprio... non tanto che venga esposto in pubblico, ma tanto il fatto che io lo... intercetti, lo veda e mi muova delle cose. Se mi muove delle cose, ho capito, però questo è un problema suo, Stefano, abbia pazienza. No, no, no, ma il suggerimento, sa qual era? Io invece le volevo far porgerle un altro suggerimento, che quelli che spesso dicono che sono infastiditi è perché sono profondamente toccati e turbati. Secondo me chi dice spesso a me dà fastidio non lo devono fare, in verità sono turbati perché sono intimamente vabbè, ma chi se ne frega? Ma qual è il punto, Stefano? Cioè, non ho capito bene, ma chi se ne frega perché sono turbati? È sbagliato essere turbati, bisogna abituarsi a questa cosa qui. Sì, bisogna abituarsi. Ma lo dice a me, ti figuri, ma lo dice a me. Ne facevo una questione molto più intima, assolutamente personale, che non è una regola generale. Non può essere una regola generale. Abbiamo capito. Rem da Roma, buonasera. Mi sente? Sì, la sento, dica. Io la sento molto lontano. Io la sento benissimo. Dunque, a proposito del giovane con la bandiera con la svastica. Sì. La svastica è un segno del Tibet di 2000 anni fa, significa positività, buon augurio. Vabbè, ma chi se ne frega però, scusi. Perché posso ostentare la croce cristiana che è stata causa di massacri, sacra inquisizione, eccetera? Posso ostentare falce e martello, che ha causato morte e fame in tante parti del mondo, con Stalin che ha mandato nei gulag 200 milioni di persone, alcuni presunti nemici e parte del suo stesso popolo. Se poi l'egemonia culturale di sinistra, imperante in Italia da 60 anni, stabilisce che va arrestato chi espone la svastica, sì, sì, sono partiti. Certo, abbiamo perso la guerra, ma... Non si preoccupi che adesso abbiamo perso la guerra, ma abbiamo guadagnato due infermieri con camice bianco. Vede, Parenzo, lei è ebreo, vede? E non sarà mai italiano, inglese, francese. Hai capito? Lei è ebreo. Hai capito? E allora? Hai capito perché il caldo e Basaglia ha commesso un errore, capito? Però scusi, Rem. Ma noi adesso dobbiamo investigare questa roba incredibile. Che significa questa cosa degli ebrei? A sirene spiegate, ti prego, fammi sentire il rumore di questa macchina che porterà via tra poco questo simpatico ascoltatore. Voglio il rumore di questa macchina che corre sulla lingua d'asfalto calda alla ricerca del Signore. Voglio sentirlo. Signor Rem, che cos'è questa storia degli ebrei? Pronto? Siamo qui, 800 24 00 24. Abbiamo recuperato questo signore da Roma, il signor Rem. Ancora non sono arrivati però. Signor Rem? Sì, ma io la sento molto lontano. No, io la sento perfettamente, ma prosegua, nella sua intemerata. No, mi dica lei a questo punto. No, ma che devo dire io? Cioè, c'è lei da dire, c'è da prendere semplicemente atto, da firmare un documento di, come dire, per metterla ma in giacenza. Ma piantala con queste ambulanze, buonista, italiano del cazzo. Io non ho niente contro nessuno, né contro gli ebrei, beh, né insomma, contro i Rom. Ma 5.000 Rom a Roma pisciano, cagano, rubano. La stazione Tiburtina hanno rubato il rame, è stata ferma per una settimana. Ma lei io non ho niente contro nessuno. Lei ma non essere... posso mantenere 5.000 ladri. Ma lei deve essere... se... lei è stato colpito da un colpo di sole. Lei è sorrettino, basta con questa ambulanza, ha rotto i lei condoni. È stato colpito da un colpo di sole, ha capito? Comunque stronzo. Adesso la ricoveriamo in uno dei migliori ospedali di Roma. Fate bene, fratelli, al Policlinico Gemelli, hanno già liberato una stanza per lei, caro. Ecco l'ambulanza. Che c'entra che è ebreo che deve tornare a Tel Aviv? Scusi, ma, dai, ma questa persona qui deve essere messa scusi, in... Rem. Scusi, ma che fine ha fatto? È sparito? Vabbè. Andiamo a Osama da Milano, che spero che non Osama. Sia il signor Osama. Buonasera. Dica. Sentite bene? Sì, sentiamo. Sì, il mio nome è una garanzia. Allora? Comunque, signor Parenzo, in verità avevo chiamato con l'intenzione di parlare di lei dell'inizio. Sì. Avevo appunto parlato di Satana che prendeva in giro appunto il prete. Beh, no, lei comunque è ebreo. Dovrebbe crederci in determinate cose. Quali ma che non c'entra? So, credo ma cosa c'entra? Ma non prendo in giro niente, dico semplicemente che non credo agli indemoniati e mi scandalizzo del fatto che un uomo di chiesa come il Monsignore abbia fatto questo paragone scandaloso tra gli indemoniati e i bambini down. Questo sicuramente ci possono essere persone così in chiesa, diciamo persone di chiesa, persone di fede. È caduto il signor Osama. Vincenzo da Bari, buonasera. Senta, io vorrei dire un paio di cose. La prima, per quanto riguarda il fatto della stretta di mano, che naturalmente il dottor Parenzo può anche stringere la mano a chi vuole, a chi non vuole, ci mancherebbe altro. Però è il concetto alcune volte che dà fastidio, perché per esempio c'è stato quello il presidente belga che non ha voluto stringere la mano a Fini, per la stessa ragione, oppure ci sono alcuni israeliani che non vorrebbero mai stringere la mano a un palestinese. Vabbè, allora... il contrario. Allora io volevo dire che è il concetto che secondo me è sbagliato, che non si può, uno può essere una persona con delle idee politiche che a me non mi fa piacere, perché la devo disprezzare non stringendogli la mano? Non è un pedofilo, non è uno stragista, comunque uno non è anche libero di vale stringere sì, e uno è anche io libero alcune di... volte non penso sì. non sono d'accordo con lei, io odio i comunisti, però ho amici comunisti che li stringo la mano, certo ci accapigliamo quando c'è politica, però sono persone degne di stima. Sì, però Vincenzo, il punto è uno può decidere di stringere o meno la mano a qualcuno, la cosa fondamentale è che se uno fa i conduttori di una trasmissione e invita una persona e poi a quel punto quella persona in qualche modo la accetta, punto. No, ma questo, ma poi mi sta messo anche di Parenzo, il dottor Parenzo, che molte volte con orgoglio e fa bene, gli dice che è molto vicino a quelle lotte radicali. I radicali sono vicinissimi ai più cattivi, come a Saddam Hussein, come beh, adesso vicinissimi ai più vicinissimi ai più cattivi come Saddam Hussein, non questo francamente mi sembra esagerato. No, le dico perché per le lotte che ha fatto contro la pena di morte, non toccare Saddam, non vicinissime politicamente, ideologicamente. No, per esempio, si schierarono una volta si schierarono, caro Vincenzo, mi ricordo, una volta, non credo che lo rifarebbero più, si schierarono per la possibilità che David Irving, che è uno storico revisionista, che è stato anche in carcere, che David Irving potesse parlare in Italia o non so dove, era stato respinto, caro Parenzo. Tu vedi, io ho detto la libertà di parola sempre, anzi questa è una trasmissione bella perché fa parlare chiunque, anche persone repellenti al mio modestissimo avviso. Se io lo invito, accetto, anzi sono contento che tu l'abbia fatto, ho condiviso con te la anzi te lo, adesso per farti un torto te lo ripropongo pure Roberto Fiore, di nuovo con noi, buonasera. Eccomi qua. Eccoci qua. Signor Fiore. Ma perché devi fare queste stupidaggini, queste pagliacciate, queste buffonate? Tanto sentiamo la sigla del nuovo programma di dove Bravo. Lavora indegnamente Parenzo. Alla gola. Partiti. Si dice di un talk show trasmesso in quel momento. In onda. Tutti i giorni, per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì. Subito dopo Mentana. In onda. Politica, attualità, lavoro, sigla? Giustizia, cultura. In onda. Non va mai in vacanza. In onda. Immerso nel lavoro. Filippo Facci e Natascia Lusenti conducono In Onda, tra poco, vabbè, sulla 7. Va bene, ho visto che Mentana ha dato la linea in onda nei tempi giusti, questa sera, 800 24 00 24. Glielo puoi dire direttamente, guarda, così. Cosa così vuoi? Lo rimproveri direttamente. No, non lo sto rimproverando, per carità, era una constatazione. Sì. Era una constatazione. Allora, che vuoi, Parenzo, cosa vuoi? No, dico, è tornato il signor Fiore. Sì, è tornato Fiore. Allora, cos'è che ti dà fastidio? Cos'è che ti dà fastidio? I manifesti che hanno fatto sui Rom, ad esempio. Per esempio? Che cosa hanno fatto? I manifesti che hanno fatto sui Rom di Forza Nuova. Cos'è che ti dà fastidio? Ma i manifesti, diciamo così, pacifici che hanno fatto sui Rom. Lo sai o non lo sai che cosa hanno fatto? Ce li ho davanti. Davanti la vergogna. Invito tutti ad andare sul sito, su Google, e mettere immagini Rom Forza Nuova. Qual è il manifesto che hanno fatto? Allora, ce n'è uno che è assolutamente agghiacciante, con una donna con delle gambe aperte, il vestito sporco di sangue, e c'è scritto: se capitasse a tua madre, tua moglie e tua figlia, chiudere i campi nomadi e espellere i Rom subito, stupratori, immigrati, è giunta la vostra ora. Beh, caro, questo non è un manifesto di Forza Nuova, fu fatto in ogni caso dopo lo stupro e l'omicidio della Reggiani. C'è scritto Forza Nuova, Fiore, almeno non prendere le distanze da questa roba. Non fu un manifesto nostro. Non so come Parenzo raccolga queste cose, noi siamo stati sempre molto chiari e forti e duri con le nostre posizioni, ma stiamo anche attenti a che cosa diciamo. Guarda, deve sempre parlare con il buon senso, io le consiglio di guardare, c'è anche il numero della sede, c'è il simbolo di Forza Nuova e c'è scritto: se fosse tua madre, tua moglie o tua figlia. Sì, ma non quella aggiunta dopo, che dice stupratori, immigrati, eccetera, quella mi sembra molto molto strana. Chiudere i campi, io vorrei stupratori, davanti, immigrati, è giunta la vostra ora. Vada su Google, ricordo i manifesti che facemmo a Roma su questa cosa. Scusi Fiore, il numero 06. Certo. Scusi, allora, Fiore, il numero è da dove sto parlando, 0635. No, benissimo. No, allora, Parenzo, posso dire una cosa? Lei appartiene oramai a un'Italia del passato. Beh, no, adesso questo che c'entra. Questa chiusura, fascismo, antifascismo, queste sono cose che appartengono a 10, 20, 30 e 40 anni fa. Lei avete fatto un manifesto con una donna la grande crisi economica ed etica dell'Italia sta trasformando questo paese che stava sempre diviso un popolo che ha dei Fiore, un attimo solo, può però scocciare molto a persone come lei che hanno sempre non voglio dire campato, non la offendo in questo modo, ma hanno sempre, si sono anche un po' compiaciuti di queste divisioni. Beh, devo dire che sul fascismo e l'antifascismo il signor Parenzo è un po' fissato, questo è vero. No, ancora dimmi. Allora, un attimo solo, le farà piacere. Noi presto, visto prima che si è parlato di sovranità monetaria, assieme a gruppi originari di sinistra, assieme ai Forconi, assieme a Zamparini, inaugureremo il primo esperimento di sovranità monetaria in Sicilia. Però mi dica la verità, Fiore, lei si dichiara ancora fascista? No, io guardi, anche quando avevo 21 anni io mi dichiaravo di terza posizione, perché quello era il mio movimento. D'accordo. Oggi mi dichiaro Forza Novista. Benissimo. Ma una grande ammirazione per tante cose che il fascismo ha fatto, le leggi sociali, le grandi bonifiche, le grandi cose che il fascismo ha fatto. Cioè, ma il fascismo, il 90% degli italiani la pensa. Beh, no, adesso il 90% degli italiani forse è esagerato, però le il fascismo, le leggi sociali, ma chi è contro? Pure il Partito Comunista nell'anno 38 però, era fuori. Scusi un attimo, sociali. Fiore, la cosa che le voglio chiedere è questa. L'avete messo al bando, per forza. Scusi Fiore, un attimo, fermi tutti con sti bandi Partiti Comunista. In percentuale, quante cose buone ha fatto il fascismo? In percentuale, 90%? Beh, direi un 85%. Beh, adesso non mi faccia il Democrat, Christian. L'85%, 90% di cose giuste. Benissimo, va bene? 90% di cose. E che ha sbagliato, scusi? poca roba. Sicuramente ha sbagliato in una concezione in cui il partito, cioè praticamente non ha trasformato la dittatura in uno stato organico, quindi è rimasto un partito al centro con tutte le forzature della... E le leggi razziali? Le leggi razziali? Ma guardi, io proprio ne ho parlato con il dottor Parenzo, la trasmissione Assieme al Versace, se ne ricorderà bene. Non ha sbagliato là. È chiaro che ci sono stati degli errori anche lì, ma eravamo in periodo di guerra ed era un momento in cui un certo tipo di legge le facevano tutti, anche gli inglesi e gli americani. Ricordiamoci che gli americani rinchiusero i giapponesi nei grandi campi di concentramento appena scoppiò la guerra. Scusi un attimo, ma poi un'altra cosa. A lei il fatto che non ci fosse democrazia le interessa o non le interessa questa cosa qui? Attenzione, il fascismo cercò di inaugurare, non fu compiuto, un tipo di democrazia diretta attraverso le camere delle corporazioni, cosa che ritornerà di attualità. Cioè è meglio quella forma. Le lobby, sono le categorie. Benissimo, è meglio quel tipo di Stato, è meglio quel tipo di Stato quello che abbiamo adesso. Quel tipo di Stato con i dovuti punti rinnovati sarebbe molto meglio di questa democrazia che ormai è finita, non è più tale, non è più una democrazia. Hai capito, Parenzo? Io ho capito una cosa molto chiara. Sì, però non puoi ascoltare l'inizio della trasmissione in onda col signor Facci. Ecco, il peronismo è stata una forma di fascismo rinnovato che si è trasformato in qualcosa di democratico. Io le dico solo una cosa. Lei non solo sta facendo una ricostruzione storica del tutto arbitrario, ma è pure un codardo, cioè non è più un ardito. Perché i fascisti, almeno quelli della sua generazione, quelli che hanno militato in quei movimenti terza posizione e quant'altro, avevano coraggio e valore e rivendicavano le loro posizioni. Allora lei vada a vedersi qui. Ho detto il 90%, ma sono stato onesto. Vada a vedere le porcherie, i manifesti raccontati da una persona che per il movimento che ha detto terza posizione si è fatta 20 anni a Londra e torno alla un attimo alla solo Fiore, una delle nostre sigle preferite, quella sugli omosessuali. S'approcio in me perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio in me e che ce passo fa, sono libero di scegliere. La Zanzara è diventata, come sapete, una delle trasmissioni più gay friendly che esistono in Italia. Caro Parenzo, so che a te la cosa dà fastidio. No, io sono favorevolissimo, figuriamoci. Speriamo di riuscire veramente ad aiutarli in questa battaglia nel riconoscimento dei loro diritti, questo spero. Un attimo solo, il signor Polledri della Lega Nord, transitato anche qui dalla Zanzara, ha inaugurato la Lega Etica. Cioè, secondo Polledri ed altri, bisogna insomma che la Lega si occupi anche di questi problemi etici, che abbia la sua posizione sulla famiglia. Polledri, i bambini hanno diritto ad avere mamma e papà. Noi diciamo, sotto le lenzuole ognuno può fare quello che vuole, ma la famiglia è fatto da un uomo e da una donna e i bambini hanno diritto a crescere dove c'è un uomo e dove c'è una donna. Bene, traffico, poi torniamo con la gran conclusione della Zanzara di questa sera. Abbiamo sempre con noi il leader di Forza Nuova, che ha rivendicato tutta la sua passione nei confronti del fascismo, che ha fatto il 90% di cose buone in Italia, e forse inaugureremo una nuova serie qui alla Zanzara, prendendo spunto proprio dall'intervento di Fiore, vero Parenzo? Sì, questa sarà una grande nuova iniziativa editoriale della Zanzara. Traffico. Siamo qui, 800 24 00 24, la signora Terry da Cremona, buonasera. Terry? Buonasera. Ma è un uomo? Ah, Terry, pensavo fosse una donna, mi scusi, perdoni, non so perché avevo in testa che Terry fosse una donna, però per carità. Vabbè, perché? Niente di male, comunque no, non sono una donna. Ad ogni modo la mia chiamata era dovuta al fatto che quando c'era il senatore Torri, al quale avete chiesto appunto se aveva tifato Spagna o Italia, sì, che lui, diciamo vigliaccamente, non è riuscito a dire esattamente cosa ha fatto, però ha detto che nella Lega parecchi avevano tifato Spagna. Beh, mi pare evidente anche dalle cose che abbiamo sentito a Radio Padania, l'esultanza sguaiata del signor Ortelli. Caro Ortelli, vivi in Italia, caro Ortelli, diciamoglielo forte, Parenzo, caro Ortelli, vivi in Italia. Se tu non capisci l'italiano, so che avete fatto, so che forse è l'unica cosa su cui siamo d'accordo con Fiore, questa cosa qui, cioè la maglietta che avete fatto, Padania is not Italy, non è proprio così, cioè Padania is Italy, anzi no, Lombardia is Italy, Veneto is Italy, caro Ortelli, vivi... Palermo is Italy. Sì, ma quello... Bergen is Italy. No, ma fattene una ragione, caro Ortelli, vivi in Italia. Vivi comunque, in Italia. Dimmi. Ti segnalo questo per il nostro democristiano Fiore, leader di Forza Nuova, che stasera rinnega i suoi manifesti. Caro Fiore, avete fatto a Milano un manifesto che ho qui davanti con sopra scritto No More Gay, punto esclamativo, basta Froci, firmato Forza Nuova. Lei è leader di Forza Nuova? Milano. Eh? Fiore? Era Roma, non era Milano. Era Roma comunque, non era Milano. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Parenzo ogni tanto guarda male su internet. No. Va bene, era Roma, quindi lei rivendica il manifesto No More Gay, basta Froci, giusto? Non fare dire due parole. Noi abbiamo dal tempo in cui ci fu il primo gay pride a Roma. Aspetta, che c'ho qui l'anno più, del giubileo. Uno dei più grandi truccatori. Aspetti Fiore, aspetti Fiore un attimo. Aspetta Fiore, guarda, c'è qui uno dei più grandi truccatori della Sette, che è dichiaratamente e orgogliosamente omosessuale, che vuole dire a Fiore questa cosa. Basta coglioni in giro. Capito? E chi è? Ma questo non è uno dei più grandi. Chi è? Chi è? Chi è? No, te lo dico, è uno dei più grandi truccatori della Sette, che è qui che lavora. Puoi chiedere nome e cognome? No, ma fammi ridire questo un'altra volta. È andato via arrabbiato. Perché? Con chi? Con noi? Con chi? No, ma Fiore non ha detto niente per adesso, tra l'altro, signor omosessuale. No, ho letto ad alta voce questo manifesto. Però forse nel suo stato ideale, Fiore, nel suo stato, so che voi avete fatto sempre le campagne contro i gay parade, però nel suo stato ideale, nel suo mondo ideale, i gay che fine farebbero? Però mi deve dire la verità qua, non faccia trucchi. Con molta chiarezza, non avrebbero nessun diritto ulteriore al fatto ai propri diritti di cittadini, quindi diritto di fare all'appensionamento nel momento in cui muore il convivente, diritto chiaramente di sposarsi, di adozione, sono assolutamente dei diritti inesistenti. Va bene, d'accordo, però appartengono solamente alla categoria delle famiglie. Qualche sanzione sull'omosessualità, no, qualche cosa? Nessun incoraggiamento all'omosessualità. Per esempio? No, non ci sarebbe nessun incoraggiamento all'omosessualità. Ho capito, che vuol dire incoraggiamento? Bandire i film e le immagini attraverso in cui... attraverso i film, attraverso la televisione, attraverso i libri, attraverso l'educazione nelle scuole, si fa passare il modello omosessuale come un modello alternativo a quello della famiglia. Cioè, scusi, se vede in un film dove due si baciano, per esempio, la censura dovrebbe toglierlo? Ma certo. Ma come certo? Ma come Fiore? Scusi, ma ci sono Froci da... Lei pure, dove abita a Roma? Io faccio questo discorso a tutti. Io sono stato 20 anni a Londra, ritorniamo a Londra. Ma è pieno di Froci a Londra! Stavo in un quartiere Hell's Court che era pieno di omosessuali. E allora? Detto questo, mica è campato male lei? Mica è campato male lei a Londra? Non ho capito, scusi. Mica è campato male perché intorno c'erano omosessuali? No, ma non è accettabile... al senso comune, i bambini, no, lasciamo perdere i bambini, non è accettabile al senso comune il fatto che due uomini si bacino in pubblico. E come non è accettabile? Che vuol dire? Inaccettabile. E che cosa bisognerebbe fare? È stato per 30 secoli, adesso è diventato accettabile. Ho capito, perché ma... c'è una minoranza che chiacchia, che ha in mano la televisione, la radio e i giornali, che lo può fare. Ma qual è sta minoranza? Qual è sta minoranza che ha in mano la televisione, radio e giornali? La minoranza liberal, che è la stessa che ha creato il casino a livello economico. Vabbè, lasciamo perdere. È la stessa. La minoranza, dunque, noi per esempio che facciamo, non dico propaganda, no, perché è esagerato, che insomma che siamo favorevoli alle coppie gay, facciamo parte della minoranza liberal che vogliamo imporre questo modello. Mi sembra che ci sia una campagna forte, e lei non può che essere d'accordo su questo, una campagna forte da almeno 12 o 13 anni per spingere tutti i paesi dell'Europa occidentale, perché in Europa orientale... Ma qual è il pericolo? Scusi, il pericolo qual è, secondo lei? È il pericolo che hanno vissuto le grandi civiltà nel momento prima di morire, perché questo è un tipico segnale di una decadenza di una civiltà, punto. E cioè le civiltà potrebbero morire con il matrimonio gay? No, non solo per quello, ma quello è un segnale che la città è in decadimento, ma è un qualche cosa che qualsiasi storico potrebbe confermare. Scusi un attimo, ma lei non metterebbe una sanzione, sempre nel suo mondo ideale, no? Una legge contro l'omosessualità? No, una legge contro l'omosessualità non avrebbe senso, avrebbe senso una legge che contro coloro che spingono come modello l'omosessualità. E che farebbe? Quel manifesto che ci stiamo vedendo per tutta Roma è effettivamente, forse non andrebbe proibito perché è ridicolo ed è riputante per gli stessi Qual è il manifesto? Quello con le scarpe da donna e poi quello su Gay Pride, quello su Gay Village, su Gay Village. Ma è stupendo, stupendo, esatto. Quella, è quelle sono manifestazioni che per me sono inaccettabili. Io ho riconosciuto il suo polpaccio, figuriamoci. Ma non lo conosci il mio polpaccio, Parenzo. Era il suo, guardi un po'. Chi c'è qua? Che cos'è questo casino che sento sotto? Massimo allora, Danaro. Ho trovato un altro manifesto degli amici, degli amici di Forza Nuova, un altro manifesto moderato come il loro solito. Recita pressappoco così, ci sono due uomini che si baciano e una scritta sobria, dietro un omosessuale si nasconde un pedofilo. No, Fiore, questo no. Che c'entra l'omosessualità con la pedofilia, scusi? Allora, anche lì, se lei ricorda bene, ci furono delle dichiarazioni di un cardinale in tal senso. Sì, ma che c'entra questo? Non è che lei è convinto che dall'omosessualità... Sto creando il retroterra a quella dichiarazione. Ma no, ma il retroterra, qui uno guarda il manifesto c'è un collegamento, purtroppo c'è un collegamento fra un certo tipo di omosessualità e pedofilia, è un dato di fatto. Ma che dato di fatto? Ma non è così, non è vero. Cioè non c'è nessun dato di fatto, ma è pieno di pedofili che non sono omosessuali, che vogliono semplicemente, che sono persone malate, che cercano l'altro sesso. Assolutamente sì, ma allora? C'è un filone fortissimo che parte dall'omosessualità e finisce alla pedofilia. Ma non è vero, non è così. Ma guardi che sta bene, allora lei mi sembra che conosca bene anche il Partito Radicale, che io ho criticato in modo veemente perché è passato dalla legalizzazione degli atti omosessuali, delle tutte le pratiche omosessuali, alla legalizzazione, e lei, attenzione a quello che sto dicendo, alla legalizzazione di un certo tipo di pratica con i bambini. Sto parlando di Pannella e so perfettamente che cosa legalizzazione ci sono stati anche dei casi in tribunale. E che ha fatto? C'è una filosofia che li collega. Cioè, scusi, non ho capito, Pannella che cos'è che avrebbe fatto? Allora, il Partito Radicale e Pannella hanno giustificato un certo tipo di pedofilia che è quella che non fa male ai bambini. Ma lei sta dicendo una cosa gravissima, no, Fiore, una cosa di una gravità enorme. Forse ho capito, ma io con però devo chiudere, approfondiamo nei prossimi giorni. Parenzo, ci sei? Che ti devo dire? Che ci sentiamo domani alle 18:30. La Zanzara combatte, vive e combatte insieme a voi. S'approcio e me, perché c'è da ridì? Se ne sei tanto convinto almeno spiegami perché. Non rubo, non sporco, non uccido nessuno, non inganno, non molesto, amo con sincerità. Quindi per favore che mi spieghi qualcuno la colpa dove sta? Omosessualità, cosa ci vuoi fare?